può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, 800 24 00 24, segnatevi subito il numero verde per intervenire in diretta, tra pochissimo cominciate a prenotare i vostri interventi, poi siamo anche sul 349 238 6666, siamo su Facebook, si può fare, trattino Radio 24 e l'account su Twitter si può fare 24, ci sono io, Alessio Maurizio in studio, Carlo Gabardini. Ciao a tutti, buonasera. Seconda giornata della terza settimana di stage. Stupendo. Stupendo, diciamo, da opinionista. Dodicesimo giorno. Andiamo così. E poi ci sono Riccardo Buccero e Barbara Bianchi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi terremo compagnia fino alle 20.30. Tra poco sentiremo il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Quindi una bella intervista. Cominciamo però con i titoli Sky TG24. Sentenza Mediaset, attese le valutazioni del Quirinale sull'agibilità politica del Cavaliere che resta incandidabile. Marina Berlusconi gela il PDL, ribadisco, mai presa in considerazione l'ipotesi di impegnarmi in politica. Lo spread continua a scendere sotto 240 punti ai minimi da due anni, buone notizie per chi ha mutui variabili. Uccisa a coltellate dall'ex, per gli inquirenti il killer stava pianificando da tempo l'omicidio ma non aveva denunce per stalking. Spara alla moglie davanti al figlio di 4 anni, poi si suicida nel siracusano, la coppia era sull'orlo della separazione. Due alpiniste piemontesi muoiono travolte da una valanga sul Monte Bianco, gravissima la guida che le accompagnava. Nuovo sbarco di migranti in Sicilia, in 124 approdano sulle coste del Siracusano 66 minori, tutti in buone condizioni. Siate uomini prima che calciatori, dice Papa Francesco, ai giocatori d'Italia e Argentina, Messi e Balotelli danno forfè. Non potete dare colpe, sempre al presidente. Lui è qui presente, il nostro presidente, è uno che lavora con la democrazia, il pubblico lo adora. Se si dovesse profilare lo scenario di nuove elezioni, il senatore Berlusconi, ai sensi della legge Severino, sarebbe incandidabile e quindi ineleggibile. E questa incandidabilità sarebbe prima di tutto accertata dall'ufficio elettorale. Questi era Dario Stefano, presidente della Giunta per le Immunità, che all'inizio di settembre voterà sulla decadenza di Silvio Berlusconi a senatore della Repubblica. Sono due le questioni, no? Stiamo cercando di capirlo, Gabardini, in questi giorni. Sì, signore. La decadenza da senatore, perché Berlusconi è già eletto, e invece il fatto che quando si andrà a nuove elezioni ci sarà da ricandidarsi. E c'è un'altra legge, quella sull'incandidabilità. E soprattutto stiamo aspettando che cosa dirà Napolitano, giusto? Naturalmente, tutto questo perché si legge sui giornali che Napolitano avrebbe fatto capire che entro Ferragosto. E quindi anche magari durante questa trasmissione accadrà. Potrebbe succedere. Durante l'aperitivo, l'happy hour di Napolitano. Anzi, noi gradiremo perché siamo qua e così potremo commentarlo molto in volentieri. Diretta. Dicevamo la questione dell'incandidabilità alle prossime elezioni. Ieri Nitto Palma e Calderoli hanno detto no, Berlusconi potrebbe candidarsi, poi toccherebbe alla Camera eventualmente esprimersi sulla sua elezione o al Tribunale amministrativo e invece sulla sua candidatura. Invece l'ex onorevole del PD, relatore della legge Severino, quella che vieta a Berlusconi di candidarsi, Ceccanti ai nostri microfoni ha detto non è così, sarebbe l'ufficio elettorale immediatamente a far decadere Berlusconi. Quindi dichiarazioni incrociate, possiamo dire anche che non ci si capisce più. Esatto, nulla. Esatto, e incomprensione direi proprio per tutti. Poi dicono che sono i giornalisti che non sanno fare il loro mestiere. Allora qua sì, ci sono le leggi, le interpretazioni, ma chi ha fatto le leggi prima ancora dei giornalisti in realtà dà interpretazioni contrastanti, quindi noi cosa dobbiamo fare? Anche io non la sono cronaca, un giornalista, ricordo anche la cronaca comunque, di quello che di quello che stagista porta acqua, giusto ricordarlo. 800 24 00 24, tra poco sentiremo anche i vostri interventi anche su questo. Sentiamo ieri sera in onda Vittorio Sgarbi, uno che è stato eletto per due volte dentro Forza Italia A questo punto però dice: io non ho mai creduto in Berlusconi. Sentiamo. L'ho sempre detto, scritto, non... Berlusconi non... io posso c'è dire... stato un momento in cui hai creduto che potesse fare la rivoluzione liberale. Berlusconi. Non potevo credere in Berlusconi, non si può credere in una cosa che non c'è. Era un'apparenza, era una finzione, era un teatro. Ma che cos'era Berlusconi? Cioè, dico, voi stiamo parlando di una cosa che non è mai esistita e che avete fatto diventare un fatto criminale. Non è mai esistito. Lui è qui presente, il nostro presidente, e uno che lavora con la democrazia. Berlusconi è un fenomeno privo di ogni interesse, se non per il costume. È un fenomeno così interessante, la gente non sapeva cosa votare, la gente non voleva votare il non voleva votare D'Alema, Rutelli, Occhetto, ma tra Occhetto e Berlusconi, e Rutelli e Berlusconi, ma chi vota Rutelli? Ma che cazzo ci fai con Rutelli? Ecco perché hanno votato Berlusconi, non è poi così complicato, eh? Non è una cosa lunare. Il presidente lo sa. Ha ragione Renzi. I nemici politici si combattono con la politica e non con la magistratura, tutto qua. L'unico punto è quello. Se vuol chiedere a me cosa penso di Berlusconi, ne penso peggio di quello che pensa questa zucca vuota che ho alla mia destra. Non ho un pensiero positivo su nessuna attività politica fatta da Berlusconi, sugli uomini che si è scelto, che sono molto peggio delle donne che si è portato a letto. Sto dicendo questo, che lo hanno eliminato con l'azione della magistratura, con un magistrato di Cassazione che è mille volte peggio di lui. Questo sto dicendo, se volete dire la verità. È chiaro che la cultura di Berlusconi non c'è, ha prodotto merda Berlusconi. Ora Sgarbi non è nuovo a, voglio dire, a dichiarazioni di questo tipo, sa giocare con le parole, sa usare le parole, però sembra un po' anche, no? Qualcuno ha scritto il 25 luglio del 43 paragonata alla situazione di adesso, cioè gente che è stata comunque con Berlusconi fino a ieri che adesso che sta dice, scendendo dal carro, diciamo. Non ci ho mai creduto, ha prodotto merda addirittura, dice Sgarbi. Vabbè. Non è mai esistito anche dietro detto, certo la punto. Cortina fumogena dello sgarbismo, probabilmente ci sono dietro anche dei concetti che sono già stati espressi, magari con parole diverse, non così forte, mi pare, nei confronti di Berlusconi. Oh, sul futuro c'è Renzi, dice Sgarbi. Sentiamo. Presumo che il futuro sia, se non lo uccidono quelli di sinistra, Renzi, perché Renzi è l'unico della sinistra che ha avuto il coraggio di andare a colazione da Berlusconi. Un delitto! È stato a colazione da Berlusconi. E ha detto va combattuto per via politica e non per via giudiziaria, che è un discorso normale. Lo combatti perché non ha niente da dire Berlusconi. È senza un'idea, né politica né culturale. Lo dimostrano i suoi, chi sono i suoi? Galan, Cicchitto, Quagliariello, la Biancofiore, dobbiamo discutere con loro? Il nostro presidente è uno che lavora con la democrazia. E durante tutto questo in realtà su Twitter impazza una polemica su Scialpi, che non si è capito no, esattamente. Su Scialpi, clamoroso, sì. Ritorno alla ribalta di Scialpi, esatto. Per quale motivo? E non si sa esattamente, c'è un tweet che però pare sia stato cancellato, però Scialpi ha minacciato querela, ha detto che ha mandato questo tweet ai suoi legali. Ma non ho capito, su un giornale dicono che riguardava il suo posteriore questo tweet, ma non esiste per il momento il tweet, perlomeno io non riesco a trovarlo. Quindi una polemica che si basa sul nulla. Sul nulla, però intanto lui è quinto, diciamo, tra i trending topic. Ah, e siccome però, a luglio è uscito però il suo disco, qualcuno dice forse è per quello. 800 24 00 24, ci ha raggiunto, lo salutiamo con piacere, il sindaco di Roma Ignazio Marino, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Una bella occasione per conoscere il nuovo sindaco di Roma. A quanto tempo dal suo insediamento ormai? Non si parla altro che dei fori imperiali, tra l'altro, e dobbiamo farlo anche noi, però ci sono anche altri argomenti. Quanto tempo è che lei è sindaco, Marino? 61 giorni esatti. Quindi siamo proprio sui due mesi, insomma, si fanno i bilanci, sì. Si sa, insomma, è normale farlo. La critica più grossa che è stata fatta su questa questione dei fori imperiali è che è sembrato un progetto, proprio perché siamo a meno di due mesi dall'insediamento, una cosa fatta di impeto, fatta senza, qualcuno dice, senza un progetto, senza ragionare, senza un progetto, appunto, così, boom. Lei cosa ha risposto? Ma già direi che non considererei precipitosa una decisione che era stata annunciata per la prima volta il 14 luglio del 1887. Questa non è male come autodifesa, però... Proprio quel giorno sì. Il ministro dell'istruzione dell'Italia varò una legge che si intitolava Piano per la sistemazione della zona monumentale di Roma e indicava proprio la necessità di proteggere monumenti unici nel pianeta come il Colosseo e di valorizzarli. Purtroppo sono passati appunto più di 125 anni e questa decisione ancora rimaneva sulla carta, è stata con determinazione sostenuta da sindaci del passato, basta pensare ad Argan, a Petroselli, ma poi di fatto non è mai stata avviata. Io credo che dobbiamo davvero... nessun altro paese al mondo, lei o i nostri ascoltatori, coloro che hanno visitato capitali come Berlino, Londra o San Francisco, ma se avessero il Colosseo, l'avrebbero trasformato in una rotatoria spartitraffico o in uno straordinario monumento da mostrare con orgoglio a chi viene a visitare la loro città? No, no, ma è chiaro che sul punto d'arrivo c'è larga condivisione questa sua affermazione, però resta il fatto che, proprio forse perché se ne parla da un secolo, il fatto che così da Quito e poi creando anche una serie di reazioni, adesso si parla a settembre di una serrata dei commercianti, ci sono state critiche anche da parte di esponenti delle belle arti che dicono che ci vuole un progetto più ampio, però continuiamo a parlare. Infatti il progetto più ampio noi lo abbiamo. Ecco appunto, perché lei ha detto anche qualcosa nelle ultime ore. Facciamo, scusi Marino, una breve pausa perché devo dare le informazioni sul traffico, manco a farla apposta, 30 secondi e poi torniamo subito tra un attimo con il sindaco di Roma. And now the good news! A partire da settembre, alcuni ragazzi di Caltanissetta viaggeranno su uno scuolabus alimentato con olio di frittura. I soldi per il carburante erano finiti e siccome il bisogno aguzza l'ingegno, le famiglie si sono mobilitate per raccogliere l'olio avanzato che verrà trasformato in biodiesel dal Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia. Al momento, più che alla frutta, siamo al fritto. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo in compagnia del sindaco di Roma Ignazio Marino, che ci stava dicendo il progetto c'è. Lei ha detto qualche giorno fa che i fori imperiali, la via dei fori imperiali addirittura scomparirà. Qual è il progetto che guida questa idea che ha lei della città di Roma? Non intendevo dire che bisogna smantellare via dei fori imperiali, quello che intendevo dire è un progetto che appunto esiste da oltre 125 anni, che è quello di completare i fori che sono già visibili ai romani, alle romane, ai turisti che vengono da ogni parte del mondo, con la parte dei fori che ancora non è visibile. Diciamo che sarebbe davvero grave che noi non proseguissimo quegli scavi che ci permettono di vedere il foro di Cesare, il foro di Nerva, il foro di Vespasiano e disporre di un'area archeologica che diverrebbe la più grande area archeologica del pianeta e anche un'attrazione straordinaria per il turismo in genere e in particolare per il turismo culturale. Roma deve ritornare a essere orgogliosa e io sono felice del dibattito che si è creato in queste settimane, perché tante testate internazionali che spesso non parlano bene del nostro paese in queste ultime settimane hanno ripreso le notizie che riguardano Roma con un dibattito culturale sul New York Times, sì, così come su Le Monde, Il Paese, la CNN o la BBC, che anche ieri ha mandato in onda un programma proprio sui fori imperiali, sulla discussione di come procedere con gli scavi. Senta, ma chi è che diciamo ispira anche queste sue decisioni della giunta, sue personali come sindaco di Roma, chiamato naturalmente dai cittadini a dare una visione, cioè dal punto di vista urbanistico e architettonico? Mi viene in mente a Parigi il barone Haussmann, quello che ha ridisegnato tutta la città. Lei ce l'ha un suo punto di riferimento oppure non lo so, è farina del suo sacco questa visione della città? Ma è evidente che è un lavoro di squadra, in squadra durante la campagna elettorale prima e dopo le elezioni dopo vi sono persone che, come Rita Paris che ha una cultura straordinaria, una preparazione davvero incredibile su questi temi, oppure il nostro assessore all'urbanistica e così l'assessore alla cultura, l'assessore barca, che sono persone che, con le quali io mi confronto quotidianamente, e ad esempio l'assessorato all'urbanistica l'abbiamo voluto chiamare l'assessorato alla riformazione urbana, e Giovanni Caudo è un architetto che studia da tantissimi anni questi problemi e queste soprattutto soluzioni per il bene della nostra città, per la ricchezza del nostro paese. Senta, un'altra critica che viene fatta sul tema della pedonalizzazione, così com'è sul tema delle piste ciclabili, di cui anche, sul quale anche lei si è esposto, non so, penso anche al fatto che lei adesso vuole utilizzare l'acqua del rubinetto anziché le bottigliette confezionate per una questione ambientale, eccetera. La critica, diciamo così, alla sinistra fighetta, che però non si occupa poi delle cose che interessano veramente la gente. Perché invece, secondo lei, queste misure che sta portando avanti, magari con l'esempio, come spegnere l'aria condizionata nella sala consigliare del comune, ultima cosa che abbiamo letto che ha fatto, perché invece, secondo lei, queste cose hanno un impatto sulla vita delle persone? Beh, assolutamente sì, ha impatto investire sulla cultura, perché questo aumenta la ricchezza di una città grazie al turismo e al commercio. Ha evidentemente anche impatto evitare sprechi inutili. Noi appena alla prima riunione di giunta abbiamo di fatto abolito le auto blu per gli assessori e i funzionari. E penso che lasciare l'aria condizionata accesa in un'aula così bella come l'aula dell'Assemblea Capitolina, ma lasciarla accesa durante il mese di agosto, quando l'Assemblea non si riunisce, credo che sia uno spreco inutile, è un gettare i soldi delle tasche dei cittadini. Cioè, ma scusi, Marino, perché questa sembra una cosa così banale. Prima non ci aveva pensato nessuno, si continuava così a pompare aria condizionata, come spesso fra l'altro succede anche nelle aziende private, sicuramente un po' ovunque c'è disattenzione, questo bisogna dirlo. Io credo che l'attenzione sia uno degli elementi importanti di chi vuole amministrare bene una città, ma vorrei anche dire che non ci concentriamo soltanto sui fori imperiali o sull'aria condizionata, sarebbe davvero banale e sciocco. Ogni giorno che noi trascorriamo una volta alla settimana nelle periferie ci occupiamo di problemi che riguardano la quotidianità delle persone. Ad esempio, la settimana passata io ho trascorso una giornata a Cinquina, un quartiere periferico di Roma, e mi sono reso conto che al secondo piano del centro anziani non c'era la sala da ballo, per il semplice motivo che era utilizzato quello spazio come un deposito di materiale Eternit, e quindi ci siamo occupati di far rimuovere quel materiale perché le persone anziane possano avere uno spazio per socializzare, per ballare, che è anche importante per la loro attività fisica. Nello stesso momento ci stiamo occupando quotidianamente dei lavori della metropolitana C, di aumentare e migliorare i trasporti urbani in modo che le persone a Roma utilizzino di meno la macchina. Basta pensare che nella città di Roma ci sono 980 automobili ogni 1000 adulti, a Londra 350 ogni 1000 adulti, quindi abbiamo un gran lavoro da fare, ecco, ma, per migliorare i trasporti urbani. Questo grande lavoro da fare, quanto sarà duro far cambiare mentalità anche ai romani sull'uso dell'automobile? Tra l'altro poi Roma è piena di colli, quindi sull'uso per esempio della bicicletta non è magari come Londra. Un'altra cosa che lei vuol fare, vuol mandare i vigili in bicicletta. Io la trovo una cosa fa ridere, no? Però è una cosa che va nella direzione giusta, no? Perché poi fa anche bene andare in bicicletta, tra l'altro si inquina di meno. Però mi ha fatto ridere che, scusi, un sindacato ha detto che bisognerà pensare a chi è cardiopatico e quindi non può andare in bicicletta. Cioè, già io mi immagino le mille obiezioni che verranno sollevate. Beh, innanzitutto il comando dei vigili urbani di Roma ha informalmente chiesto quanti sono disposti a svolgere il proprio lavoro sulla strada andando in bicicletta, e abbiamo avuto più di 200 adesioni, quindi non lo vedo come un grande problema. Poi l'idea dei vigili in bicicletta, che non è un'idea così originale, ma si è rafforzata nel mio cervello, perché ho visto che girando io stesso in bicicletta, sì, i cittadini mi fermano, no, a un semaforo, mi mettono le mani sul manubrio e mi dicono: guarda che in questa strada non sono passati a fare le pulizie, a raccogliere i rifiuti da 5 giorni, oppure c'è una buca in quell'altra strada, oppure in quell'altra strada non c'è l'illuminazione. Io prendo appunti e faccio il mio lavoro di forse sindaco, è per questo che c'è un po' di resistenza tra i vigili, perché dato che non, a volte non fanno un lavoro molto apprezzato dai cittadini, hanno paura magari di essere assaliti visto che sarebbero in bicicletta. Questa però è soltanto una battuta. Invece guardi che sono molto, sì, apprezzati. Abbiamo già un primo nucleo che, sì, sta girando in bicicletta e la gente addirittura li applaude, sono le persone a Roma sono contente, anche perché hanno un rapporto diretto con la polizia municipale, che secondo me è positivo. Guardi, noi tra l'altro nelle nostre pillole, nelle nostre good news che mettiamo ogni tanto, parliamo spesso di bicicletta in termini positivi, perché quindi siamo d'accordissimo da questo punto di vista. Parliamo però anche un po' di politica in generale col sindaco di Roma, perché lei adesso è diventato un esponente di primo piano del suo partito, del Partito Democratico, c'è poco da dire. Lei aveva corso anche alle primarie a suo tempo, non aveva preso molti voti, però adesso come sindaco di Roma ha sicuramente una voce più autorevole. In questa situazione nella quale il PDL chiede l'agibilità politica per Berlusconi, il suo partito, il PD, cosa dovrebbe fare? Assolutamente la cosa giusta e non quella che conviene. È evidente che il nostro paese ha delle leggi, ha delle norme rispetto a una condanna passata in giudicato, una condanna definitiva. Il Senato deve esprimersi sulla possibilità che una persona condannata in forma definitiva possa continuare ad avere il diritto e l'opportunità di rappresentare i suoi eletti, oppure questo diritto decada. Io credo che la questione è molto semplice, non bisogna cercare leggi che non ci sono o interpretazioni fantasiose di leggi che esistono. Quindi la decadenza di Berlusconi e basta sostanzialmente. Insomma, dobbiamo essere abbastanza così chiari e anche lineari. Se un cittadino perché ci sono delle leggi scritte e quelle leggi sono state votate dal Parlamento. Tra l'altro voglio ricordare che la legge che impedisce o impedirà a Silvio Berlusconi di essere candidabile è una legge che ha votato nel dicembre del 2012, io ero ancora senatore, anche il partito di Silvio Berlusconi. Se quella legge è stata votata, è stata considerata una legge che poteva garantire che delle persone condannate non rappresentassero i cittadini italiani, quella legge credo che debba valere per tutti. Non è che poi se c'è un cittadino speciale, quel, sì, cittadino non deve non deve ottemperare alla legge dello Stato. Almeno io penso che, sì, anche lei la penserà così, perché allora se no si dovrebbero scrivere le leggi dicendo questa legge vale per tutti, ma non varrà nel caso che Giorgio Rossi, Filippo Bianchi, Sergio Verdi si trovassero in quella posizione. No, vabbè, ma questo è chiaro. Però se, come va dicendo il PDL, questa situazione non verrà accettata facilmente, non verrà digerita, il PDL continuerà a chiedere invece per Berlusconi uno spazio di qualche tipo, poi questa formula dell'agibilità politica è tutta da vedere. Se ci fosse questa richiesta ancora e quindi si andasse oltre il semplice rispetto della sentenza, il Partito Democratico dovrebbe sciogliere questa alleanza con il PDL? Cioè fino a che punto può andare avanti questa alleanza attualmente in atto di governo di fronte alla richiesta del PDL, che resta quella di poter avere Silvio Berlusconi come leader del loro movimento? Innanzitutto questo è un governo che è nato con degli obiettivi da realizzare. Io credo che l'obiettivo principale in questo momento sia quello di creare lavoro nel nostro paese. In una città ad esempio come Roma abbiamo il 40% dei giovani che sono disoccupati. Se il governo riesce a risolvere problemi così importanti come quello del lavoro, soprattutto del lavoro giovanile, i problemi che ruotano intorno all'economia, e quindi è un governo del fare, io credo che abbia un senso. Se il governo deve solo durare sulla base di equilibri improbabili, allora io credo che non abbia senso e che la cosa che debba essere fatta con urgenza è una nuova legge elettorale, perché davvero non si può immaginare di ricondurre gli italiani a votare con una legge dove i candidati alle elezioni sono scelte nelle stanze chiuse delle segreterie di partito da 4-5 persone. Ecco, io credo che questo davvero non possa essere più tollerabile, e che il fatto che meno gente sia andata a votare alle ultime tornate elettorali è sicuramente legato a una disaffezione, perché le persone legittimamente dicono: ma se io non posso scegliere il candidato, ma perché devo andare a votare? Chiaro, chiaro. Dobbiamo fermarci qua. Grazie, grazie Ignazio Marino per essere stato con noi, il sindaco di Roma. Grazie e a presto. Buone vacanze. Grazie, grazie, grazie a voi. Buona serata. 800240024 per intervenire in diretta tra pochissimo. Gabardini, tieniti a mente sì. Le annotazioni. No, non avevo annotazioni, volevo semplicemente fargli gli auguri di buon lavoro, ma no, essendo stagista e le mie regole di ingaggio non mi permettono di parlare, quindi non ho potuto fare domande al sindaco Marino. Facciamo la borsa, torniamo tra un attimo. And now the good news. Si chiamano Informatici Senza Frontiere e sono un gruppo di cervelloni che realizzano progetti di solidarietà in Italia e nei paesi in via di sviluppo. Donano computer usati a chi non ne ha, tengono corsi nelle scuole, sviluppano software per gli ospedali, le carceri e le scuole. A volte anche i nerd hanno un cuore. Si può fare l'attualità anche d'estate. 18.34, cari ascoltatori, iniziamo subito a sentire i vostri interventi al numero verde 800240024, mentre continua a infuriare la questione Scialpi su Twitter. Continua a infuriare la questione Scialpi, non si è ancora trovato il tweet originale che venne cancellato, però pare che questa talla, chiocciola TALLAAA, abbia scritto qualche cosa di brutto sul posteriore di Scialpi, quale ha minacciato di querelarla, e lei risponde: comunque Scialpi è il mio gatto. Beh, che mi sembra una bellissima risposta, però certo. Scialpi risponde nuovo, dice: spiacente, ho fotografato tutta la conversazione precedente e conseguente, non te la cavi così. Ma non c'è ancora il tasto per espellere su Twitter quella cosa di cui si era parlato, gli stalker? Beh sì, quello si può bloccare, comunque si può bloccare, però si parlava sempre di un tasto che faceva scattare automaticamente la denuncia degli stalker. Esiste, non credo automaticamente, anche perché sennò diventa anche troppo facile, uno magari scrive semplicemente però poi la polizia controlla, la polizia postale però intanto ti bloccano l'account. Ma si era parlato di questa cosa o sognata io. No, ma ci sta lavorando Twitter. Ci sta lavorando, ma sono follie. Il mezzo non è male di per sé, dipende come lo si usa. Quindi Carmelo, limitare il mezzo non ha nessun effetto. Da Catania, buonasera Carmelo. Buonasera a lei. Prego. Come va? Abbastanza bene. Bene. Bene, grazie. Io intervengo per quanto riguarda la vicenda Berlusconi. Si continua a parlare di Berlusconi quando sarebbe ora invece di smetterla. C'è stata una sentenza della Cassazione, si rischia secondo me di creare un quarto grado di giudizio che sarebbe quello politico, ma non ha affatto senso. Ormai c'è una condanna e un pregiudicato, si deve aspettare che la Commissione decida la sua ineleggibilità e basta. Però non è colpa nostra, ormai la situazione è questa, stiamo aspettando il capo... Stiamo aspettando Napolitano che si esprima su questa questione, quindi... Ma certo, ma assolutamente non per colpa vostra, ma la gente che continua a dire che Berlusconi, perché è stato eletto dal popolo, ma d'accordo, era un politico quando è stato eletto dal popolo, ora è un pregiudicato, ci sono dei pregiudizi per la sua eleggibilità, basta, non c'entra niente il fatto che ci sia il consenso popolare, con la condanna non c'entra niente, amen, pregiudicato. Grazie Carmelo. Grazie a lei, buon lavoro. Andiamo grazie a Gerardo che ci chiama dalla provincia di Salerno, buonasera. Buonasera a voi. E niente, praticamente Carmelo da Catania ha giocato d'anticipo. Perché? Ha detto già quello che voleva dire lei? Purtroppo. Ci parli di Scialpi lei. Mi trovo paro con quello che ha detto lui. C'è una sentenza della Cassazione. Punto. Non si discute. C'è una legge in più sulla ineleggibilità o incandidabilità della Severino. Chi ha ha subito una condanna oltre i 3 anni, anzi oltre i 2 anni, praticamente non può essere candidato. Ma secondo lei che cosa dirà Napolitano? Ma Napolitano che cosa può dire? Non lo so. Ma come c'è la sentenza della Cassazione è inoppugnabile. E anche per quanto riguarda la vicenda del giudice Esposito, il giudice Esposito in quella intervista del Mattino innanzitutto parlava di un caso generale, di un ipotetico imprenditore in cui è condannato non per il teorema non poteva non sapere, ma perché sapeva ed era lui l'artefice di quel marchingegno delle scatole cinesi. Ma ha fatto bene a rilasciare questa intervista o no? Allora, ha fatto bene. Purtroppo il problema è questo, che non inficia per quanto riguarda la sentenza della Cassazione, perché la legge... Lo sappiamo, non inficia. Ma ha fatto bene o non l'ha fatto bene? Beh, questo però è già un punto, che non inficia, perché invece secondo altri inficia. No. Secondo lei non inficia. Un attimo solo, risponde. Sì. Ha fatto bene o meno? Non lo so. Lui ha parlato di un caso generale, ha espresso delle opinioni dopo la sentenza, quindi praticamente la legge mette sotto giudizio chi esprime dei concetti prima di emettere la sentenza. Quando la sentenza è stata emessa, lui ha detto soltanto che lui è stato condannato perché sapeva, punto. E allora, e si riferisce... ha rilasciato un'intervista lunghissima. C'è quasi mezz'ora di registrazione di questa intervista. Chiedevamo dell'opportunità, di rilasciare un'intervista di quel tipo. E il motivo per cui l'abbia fatta, visto che forse è ancora... È venuto dopo la sentenza, perché non poteva parlare. Vabbè, prima però del deposito delle motivazioni di quella sentenza. È un gran regalo a Berlusconi, giusto? No, un attimo. Solo. Anche la Corte d'Appello aveva sentenziato che lui sapeva, punto. Quindi se l'ha detto la Corte d'Appello... Sì, ma tutto questo lo sappiamo, ci stiamo chiedendo dell'opportunità di come mai, perché? Sappiamo che non inficia, sappiamo tutto. Perché sollevare questo polverone? Per quale ragione sollevare questo polverone? Perché praticamente io vi invito a leggere Tinti sul Fatto Quotidiano, che ha ridicolizzato pure... Vabbè, adesso però le letture ci scegliamo quelle che preferiamo. No, Gerardo, finché fa un intervento, ma se ci invita a leggere poi non possiamo più seguire quello che sta dicendo. Grazie, abbiamo capito però il senso di quello che sta dicendo. Gerardo, lei è simpatico, però che dobbiamo fare? O ci dice qualcosa di attuale, ma se ci rimanda a una lettura di un articolo non va bene. Gerardo? Praticamente io pure per il fatto di Napolitano che potrà dire? Dall'agibilità politica in base a quale cosa? In base a che cosa? È il silenzio del CSM che non difende Esposito. Ma il CSM ha aperto una procedura, altro che difendere Esposito. No, probabilmente gli faranno un trasferimento, può darsi, perché comunque che ne dica lei, quella cosa là, all'organo di autogoverno della magistratura non è piaciuta, se no non avrebbero aperto questo procedimento. Perfetto. Ma gli attacchi indecenti del giornale, gli attacchi indecenti, il fango che sta buttando il giornale su questo, per aver detto soltanto che lui sapeva, punto e basta. Va bene, grazie Gerardo. Abbiamo capito benissimo il suo punto di vista, facciamo parlare qualcun altro. Roberto da Vercelli, buonasera. Buonasera a voi, Maurizio Gabardini. Buonasera. Buonasera. Volevo ricollegarmi a quanto ha detto il sindaco Marino. Sì. Io non conosco bene le problematiche di Roma, comunque intanto sono d'accordo con lui per l'iniziativa che ha preso. Chiaramente non sempre tutti possono essere d'accordo, ma se nessuno mai si muove a fare qualcosa non si farà mai niente. Poi intanto non bisogna stupirsi delle sue iniziative sugli sprechi, intanto perché è di origine, mi sembra origine genovese, quindi il fatto che lui spenga i condizionatori mi sembra abbastanza... Ah, dice che lo fa perché è tirchio? Ma non è che paga lui. Cioè tutto era un incipit lunghissimo per dirci che secondo lei lo fa per tirchieria? Vabbè, quelle iniziative lì però hanno anche... hanno anche successo per quello, insomma, essere tirchi a volte serve anche per risparmiare. E poi il fatto che vuole, migliorare o cambiare anche il viale dei fori imperiali, posso suggerirgli una piccola idea di un mio amico architetto. Via tutti i San Pietrini, un fondo trasparente, e si cammina sopra guardando e ammirando gli scavi dell'antica Roma. Vabbè, questo potrebbe essere per qualche pezzettino, non in il generale. Plexiglass, questo no? È? sì, una struttura trasparente. Ma adesso non è che ci dice che lei vende queste cose in plexiglass, che in realtà aveva telefonato perché voleva vendere del plexiglass al sindaco? Poi era capito del mio amico architetto. Va bene. Mi fa la consulenza. Grazie Roberto, buona serata. Sandro da Roma. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Dunque, io volevo un attimino intervenire sul fatto del Porcellum. Questa idea così che noi si voti un partito e poi all'interno di quel partito, di cui condividiamo comunque le idee e le future applicazioni, siano i dirigenti di quel partito a decidere chi è che deve rappresentare il popolo, se non tutto, almeno quelli che hanno votato quel partito, nelle assemblee, nelle camere, a me non sembra un'idea tanto malvagia. Questo io non parlo del premio di maggioranza, che è quello che fa imbestialire tutti quanti. Pertanto il fatto di dire questo Porcellum va cambiato, forse andrebbe cambiato soltanto nel premio di maggioranza, perché altrimenti io non capisco come farebbero tantissimi personaggi che vorrebbero essere votati personalmente ad andare in giro nelle proprie circoscrizioni a parlare, così come era una volta, ma non so quanti cittadini andrebbero a sentirli. No, non ho capito, ci sta dicendo che a lei le piace il Porcellum perché pensa che i politici... Io non vedo un'idea così satanica nel votare comunque un partito che ha la mia fiducia, che so che cosa vuol fare dopo le elezioni, e che poi sia quel partito che gode della mia fiducia, sì, però forse scegliere le persone che mi rappresentano. È che non è un grandissimo momento, diciamo, per i partiti e la fiducia loro accordata. Questo è un aspetto, però Sandro, che è anche un punto, momento per i singoli persona. Sì, ma guardi, il problema del Porcellum, i singoli speriamo che cambino, forse è quello. Il problema del Porcellum non è tanto i singoli o i parlamentari scelti, nominati, perché lei dice a me fa piacere che il mio partito nomini perché il mio partito di fiducia nomina dei parlamentari e io poi li scelgo. Il problema è che il Porcellum non funziona in termini di garantire una maggioranza, perché ha i premi di maggioranza diversi alla Camera e al Senato. Questo è il problema fondamentale. La questione di ridare, come si dice, il diritto ai cittadini di scegliere, per quanto mi riguarda, è secondaria rispetto al problema della governabilità. Esatto. Pertanto l'unico problema è quello del premio di maggioranza. Però è un pezzo importante di quella legge lì. Cioè la legge alla fine... Perché con questi equilibri che ci sono, le maggioranze così dette sono risibili. Pertanto basta un poco per avere poi una maggioranza eccessiva nel Senato. Vabbè, però forse sarebbe meglio invece votare delle persone che uno sa chi sono e uno vota quella persona lì, che poi va in Parlamento e deve anche rispondere. Io penso che con i risparmi che dovremmo e che mi auguro e che auspico si possano fare per ciò che riguarda i soldi dati ai partiti, adesso non voglio entrare nella polemica del rimborso, però insomma prima o poi ci si dovrà arrivare. Io penso che invece una campagna elettorale fatta da un unicum, un partito soltanto, piuttosto che da tanti personaggi, serva anche a diminuire le quantità di denaro che vengono. Problema loro questo, chi pagherà la loro campagna sarà un problema Ma poi un partito solo mi sembra un po' troppo poco. Mi sembra decisamente troppo poco. La dittatura per risparmiare ci sembra un po' troppo. Troppo. Facciamo una pausa, abbiamo il traffico, Good News Traffico, e poi torniamo. 800 24 0024. And now the good news. Grazie a un accordo tra l'amministrazione penitenziaria della Lombardia e l'Università di Milano Bicocca, nelle carceri di Bollate, Monza, Opera, San Vittore e Lodi sarà possibile per i detenuti seguire i corsi universitari. Le statistiche ci dicono che ogni detenuto coinvolto in questi progetti è una persona in meno destinata a compiere nuovi reati. Studia e fatti libero! Si può fare l'attualità anche d'estate. E allora abbiamo Carlo che ci chiama da Brescia. Buonasera Carlo. Buonasera. Prego. Volevo farvi un appunto. Secondo me i due conduttori, voi due, siete peggio di Parenzo. Mi spiego. Cioè in due siamo peggio di uno. Di Parenzo, sì, in due, sì. Che è tutto dire, ecco. Beh, insomma, a me di essere mezzo Parenzo mi basta e avanza, quindi per il momento non lo trovo un insulto, prego. No, no, non è un insulto, magari può essere un complimento. Comunque, cioè, se un giornalista indossa gli occhiali neri, vede tutto nero. Se indossa gli occhiali rossi, vede tutto rosso. Cioè, secondo me voi state facendo un anti-berlusconismo così di facciata, sottofondo, eccetera, molto mimetizzato. Per esempio, ieri avete intervistato tutti e due persone, tutti e due del PD o del centro-sinistra. Oggi c'è Marino, tra un quarto d'ora ci sarà qualcuno di Shell. Ma a parte questo, io non sono berlusconiano. Chi c'è di Shell fra un quarto d'ora? Non lo so. No, dice così per dire. Beh, guardi, che questi interventi qua, secondo me, sono proprio a vuoto, perché cosa le devo dire? Che abbiamo avuto Alemanno, che abbiamo avuto Zaia, che abbiamo avuto Gasparri. Cosa facciamo? La conta degli ospiti mi sembra veramente demenziale. Anche perché lei ha fatto giovedì o venerdì scorso. Parlando uno adesso, non so chi ha detto che il Parlamento non funziona, non si riescono a fare, eccetera, eccetera. E lei ha detto, sì, anche Berlusconi aveva detto questo, però l'aveva fatto per i cavoli suoi, cioè per le leggi ad personam sue, il che non è vero. Io ho detto questo? Lei si sbaglia, io non ho detto questo, non ho mai detto questa cosa qua. Mi ricordo esattamente, ma non ho detto questo, non ho detto assolutamente questo. Ho detto, forse era l'intervista di ieri a Mazzucca, io ho detto guardi, l'ultima volta che abbiamo toccato questo argomento era ieri con Mazzucca, io ho detto, il Parlamento è inutile, come diceva Berlusconi, è controproducente, oppure così com'è, come dicono i 5 Stelle, non va bene, andrebbe rafforzato? Questa è la domanda che ho fatto. Poi ieri, la cosa che dice lei è successa qualche giorno fa, ma non sono parole mie, erano parole del mio interlocutore. Andrò a risentirmela poi, però provi a risentirla anche lei. Ma io ho a mente quello che lei dice, ma non è andata così. Ma perché comunque li risentiamo tutti volentieri, ma per dire che cosa? Non ho capito la questione del... Berlusconi sta dicendo le stesse cose che diciamo noi. Vabbè, basta, Carlo, non sentiamo più nulla. Non sentiamo più nulla, purtroppo è andato via l'audio. Comunque, ma detto così, adesso sembra un complotto che è andato via l'audio. Perché abbiamo fatto poi. Abbiamo una macchina che serve a oscurare gli ascoltatori. Una gioiosa macchina, direi. Invece no, perché gli ascoltatori con cui si discute sono interessanti. Solo che adesso abbiamo esaurito l'argomento, non si sentiva più nulla. E soprattutto ci ha raggiunto il nostro prossimo ospite, Roy Dolce, in arte. Non lo so se è già un nome d'arte questo. Diciamo Roy è il mio nome d'arte, in realtà Roberto Roy è il mio nome. Roberto, detto Roy, Dolce, fa il gigolò, esatto, nella vita. Dolce è il cognome, quindi va bene, comunque diciamo Roy. Questo è il cognome, è vero, Dolce? Sì, Dolce, come Dolce Gattolo. Per uno che fa il gigolò è un cognome ottimo cognome. Era predestinato, evidentemente. L'abbiamo convocato. Anche se le mie tendenze sono diverse dai famosi stilisti, comunque... Cioè lei è etero. No, ma noi eravamo sulla dolcezza, sulla dolcezza in generale, non perché eravamo sulla questione di Dolce Gabbana. Tra gli etero la dolcezza non va di moda? Moltissimo, anzi. Bisogna essere rudi per essere dei gigolò? Dopo chiamiamo Rudy Dolce. Invece che Roy Dolce. L'abbiamo convocato perché oggi c'è una pagina sul Libero, il titolo è: gli arriva la cartella del fisco, non pago, sono un gigolò, l'erario chiede 200.000 euro di tasse, evase a un disoccupato, il conto in banca era troppo alto, lui replica: la mia professione non è riconosciuta. Ci spiega che cosa le è successo? Niente, praticamente ad aprile mi hanno bloccato i conti, hanno fatto una verifica, hanno visto che il mio tenore di vita era molto alto, hanno visto che hanno documentato che io faccio questo mestiere, perché tra la cartella esattoriale che mi hanno mandato c'erano anche degli articoli del Corriere della Sera, dei vari giornali, dove dico che faccio questo mestiere, quindi è tutto scritto. Quindi loro adesso vogliono le tasse in base a quello che io... si presume abbia guadagnato. Cioè, mi scusi, ma se lei non avesse ricevuto pubblicità dai giornali sulla sua attività, non avrebbero avuto questo elemento, ma gliel'avrebbero chiesti comunque i soldi o no? Ma credo di sì, perché adesso c'è un girone, insomma, l'agenzia di Stato sta attaccando tutte le prostitute perché sa che lì prende del denaro, ma prende il denaro perché le prostitute non attaccano, nel senso non si difendono, perché la prostituta un po' si vergogna di fare questo mestiere, i soldi ce li ha, quindi preferisce patteggiare, trovare un accordo e pagare. Ma questo avviene spesso per la sua esperienza nel settore? Avviene sempre, al 99% dei casi. Cioè le prostitute che guadagnano molto poi fanno dei patteggiamenti col fisco? Esatto, perché vengono beccate, chiaramente quelle che vengono beccate, le altre, quelle più furbe che portano i soldi fuori, che il 70% della prostituzione in Italia è straniera, quindi sono soldi italiani che se ne vanno all'estero e qui nessuno fa nulla perché poi siamo alla ricerca di denaro, lo Stato cerca soldi ovunque, eppure si fa sfuggire questa occasione molto appetitosa. Ma quello che non ho capito, mi scusi, nel senso che quello che dice il fisco è, dice, lei sicuramente ha guadagnato dei soldi, quindi ci deve pagare le tasse, e lei gli sta dicendo, certo che li ho guadagnati, ma io non li posso dichiarare perché voi non mi riconoscete, come non riconoscete il mio lavoro, giusto? Ma non solo, sì, questo è il punto, io non essendo, non ho diritto di mettermi in regola, quindi lo Stato non mi riconosce, non dà a me le garanzie, non dà la sanità, non dà la pensione, non dà nulla, allora se tu Stato non mi riconosci, per quale motivo e poi all'improvviso mi prendi del denaro che poi è denaro della prostituzione, quindi a questo punto è reato perché la legge Merlin è sfruttamento della prostituzione. Quindi lo Stato diventerebbe, diciamo, il suo magnaccia, per dirla esatto, in breve. Esatto. Ma quale aliquota si dovrebbe applicare? Perché se non c'è se non c'è struttura di questa professione di gigolò, cosa le fanno pagare a lei? Ci sono 8 stati nell'Unione Europea che già fanno questo, hanno applicato questo criterio, quindi sicuramente c'è una partita IVA da aprire dove si paga un tanto applicato a ogni prostituta, chiaramente è un forfait, non si può applicare in base alla privacy delle persone, quindi è chiaro che si pagherà una percentuale in base a quello che uno può guadagnare annualmente. Ma scusi, siccome mi sembra di capire che lei in realtà sta dicendo, io le tasse le voglio pagare, non è che non le voglia pagare, ma lei non potrebbe rilasciare una fattura tipo per una consulenza, per un massaggio, per qualcos'altro? Potrei farlo, però devo dichiarare il falso, quindi se andiamo avanti così, allora è tutto illegale, quindi io voglio legalizzarmi, voglio poter pagare liberamente, se io stasera esco con una signora prendo 1000 euro, devo poter, queste 300 euro dovrò darle allo Stato e lui mi deve... Però mi scusi, lei adesso quindi non le vuole pagare queste tasse o perché allora, sennò uno potrebbe dire, questo con la scusa di voler regolarizzare la professione, di fatto non vuole pagare le tasse. Allora, io con queste tasse è probabile che le pagherò, perché come tutti alla fine stiamo patteggiando, anche se l'Agenzia delle Entrate adesso ha preso tempo e non so il perché, perché i termini sono scaduti, evidentemente il mio avvocato ha prolungato. La cosa che ha detto lei, perché è molto precisa, lei dice, nel momento che io pago va bene, ma nel momento che io pago voi state sfruttando la prostituzione, e quindi c'è un problema politico a quel punto. Esatto, ma infatti è un problema dello Stato. Ha un bravissimo avvocato, volevo dirle. Sì, e poi c'è anche che ha saputo rigirare la frittata in maniera notevole. Però lei lo sa che questa cosa non avverrà mai, cioè che non si regolarizzerà mai la prostituzione in Italia o comunque prestazioni tipo le sue, che insomma, gigolò, si dice gigolò, però è a pari della prostituzione. C'è da dire che è anche un lavoro socialmente utile per certi aspetti, quindi in caso io posso anche essere... cioè aiutare le persone, come l'assistente sessuale, che è un'altra figura che in Italia non c'è, ma all'estero c'è. Ma lei non potrebbe rilasciare, una fattura con un'altra dicitura simile? Tipo, no, ma lui vuole fare quella cosa lì, giustamente. Perché consulenza fa sul lì, buon umore è simile, dico adesso, non è che bisogna proprio scrivere pompino sulla fattura. Ho capito cosa vuol dire lei, però non è... È stato, che tra l'altro sarebbe bellissimo, un po' implicito, Gabardini. Sarebbe bellissimo perché sarebbe il primo escort che si può scaricare, e questa sarebbe veramente una notizia, scaricare tra l'altro in tutti i sensi, cioè finalmente un fidanzato che si può scaricare. Sì, buttiamola sullo scherzo, comunque ecco, questo mi è capitato, e poi adesso come andrà a finire non lo so, però... L'unica cosa che io nel momento in cui mi arriverà da pagare, io prenderò questo assegno circolare e lo porterò, vorrei che loro mi firmassero un foglio dove al di sopra di questo foglio ci sia scritto la motivazione. Ha ragione, ha perfettamente ragione. Quanto guadagna lei al mese con questo lavoro che fa, se ce lo vuol dire? Ma posso guadagnare come un manager più o meno, tipo? Alte e bassi. I manager in questo paese guadagnano dagli 800 agli 800.000 euro. Alti e bassi perché, pensavo che già fossi partito. Dica agli alti. Vabbè, intorno alle 7-8 mila euro, insomma, poi... Al mese? Sì. Lavorando quanto? Quante ore alla settimana? Ma io mi applico molto nel mio lavoro, nel senso lavoro 3-4 volte a settimana, però anche quando non lavoro mi dedico al marketing, alla pubblicità. Ma ho visto che le sue tariffe sono tipo 2.500 euro a serata, è giusto? Ma varia dalle 500 alle 2.500, dipende dal servizio, perché io faccio molti servizi, dall'ingelosimento alle prove di fedeltà, una semplice serata. Cos'è l'ingelosimento, scusi? L'ingelosimento è quando un marito vuole... una donna vuole ingelosire il marito e quindi ingaggia lui per fare la scena. Ci spiegherà meglio tutto il resto la prossima volta. Adesso ci dobbiamo fermare qua. Abbiamo il giornale radio. Grazie Roy Dolce, in bocca al lupo per la sua contenzioso col fisco. 800 24 00 24, subito dopo il giornale radio. And now the good news. Giovanni Tesoriere, preside di ingegneria a Enna, ha un unico pensiero: devolvere il compenso di circa 70.000 euro, che gli spetta per una consulenza alla Regione Sicilia, ai suoi studenti in difficoltà. Ho il mio stipendio e mi basta. Con quei soldi si potrebbero creare delle borse di studio, dice. Ma per ora la Regione non ci sente. Tesoriere, di nome e di fatto. Si può fare. L'attualità. Anche d'estate. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. 18, 20 e 30 l'orario. Si può fare l'attualità anche d'estate insieme a me, Alessio Maurizi, Carlo Gabardini. Buonasera per a tutti. Il secondo giorno della terza settimana, il nostro stagista opinionista che ci porta un punto di vista diverso. Stronzo. Scusate, ho sbagliato battuta, l'unica, no, ho sbagliato, aiuto. E cosa volevi dire? Un punto di vista strambo, perché esatto. Dopo abbiamo un punto di vista strambo e quindi ti è venuta fuori così. Allora, abbiamo la dichiarazione di Marino ai nostri microfoni, il sindaco di Roma, che dice la legge deve valere per tutti. A proposito, gli abbiamo chiesto naturalmente la domanda su Berlusconi. Poi c'è un po' di agitazione in attesa del pronunciamento che dovrebbe arrivare entro Ferragosto da parte del capo dello Stato. Sentite qua, Famiglia Cristiana, non si può pretendere dal Colle un segnale, un salvacondotto che mini l'uguaglianza dei cittadini, ne andrebbe di mezzo la credibilità e il prestigio di un presidente amato e stimato da tutti. Cioè, se Napolitano tende la mano a Berlusconi, perde di prestigio. Il Movimento 5 Stelle dice che ci sarebbe l'impeachment, chiederebbero l'impeachment per Napolitano se tende la mano a Berlusconi. Quindi queste sono le notizie dell'ultima ora. Sentiamo i titoli del TG3. C'è attesa per l'annunciata nota del Quirinale sulle conseguenze della condanna di Berlusconi e sulla richiesta del PDL di garantirgli agibilità politica. Brunetta, non è una questione personale, confidiamo nella saggezza del Colle, i democratici non ci sono i presupposti per concedere la grazia. Marina Berlusconi gela chi la vorrebbe leader del centrodestra dopo Silvio, l'ho detto e lo confermo categoricamente, mai pensato di impegnarmi in politica. Spread ancora giù, sotto quota 240 punti, il calo fa bene ai conti pubblici, attesa dei mercati per l'uscita dall'area euro dalla recessione, domani dati Eurostat. 7-8 mila tagli previsti alla spending review, stipendi congelati per tutto il 2014, dipendenti pubblici sul piede di guerra. Ancora una donna uccisa al marito che poi si è tolto la vita all'omicidio in Sicilia davanti al figlio di 4 anni. Lei lo aveva denunciato una settimana fa. In udienza dal Papa Italia-Argentina prima dell'amichevole di calcio di domani in suo onore, Francesco non so per chi tifare, breve colloquio con Balotelli. Potete dare colpe sempre al presidente, per ogni problema lui è qui presente, il nostro presidente è uno che lavora con la democrazia, il pubblico lo adora. Quali sono le strade percorribili per Berlusconi per essere ancora far parte ancora della politica attivamente? Guardi, in astratto la strada sarebbe anzitutto quella di modificare la legge Severino e il decreto legislativo di cui le ho parlato, che sono chiarissimi, che fin tanto restano in vigore quelli, sì, che però sono stati votati anche dal PDL, non c'è nessun margine alla possibilità di Berlusconi, cioè può guadagnare qualche mese per non essere dichiarato decaduto da questo Parlamento, ma la sorte della sua decadenza secondo me è segnata, e comunque se per caso ci fosse un'elezione anticipata lui non è candidabile. sempre detto, scritto, non... Berlusconi, non... io posso c'è dire... C'è stato un momento in cui hai creduto che potesse fare la rivoluzione liberale. Berlusconi, non potevo credere in Berlusconi, non si può credere in una cosa che non c'è. Era un'apparenza, era una finzione, era un teatro. Ma che cos'era Berlusconi? Cioè, dico, voi stiamo parlando di una cosa che non è mai esistita e che avete fatto diventare un fatto criminale. Non è mai esistito. Politica e sicurezza. Oh, il primo era Stefano Ceccanti, relatore della legge Severino, ieri ai nostri microfoni, la legge sulla anticorruzione che prevede per i reati commessi con sentenza definitiva come quelli di Berlusconi l'incandidabilità. A chi dice che sentiamo solo ospiti di sinistra, che non è vero, potremmo dire che domani avremo Nitto Palma, sicuramente. E poi possiamo dire che Sgarbi è eletto PDL, non è mica colpa nostra se dice Berlusconi non è mai esistito. Non è che l'ho detto io, l'ha detto Sgarbi. Questa è la Sgarbi in onda, l'avete sentito. Sgarbi eletto due volte nelle file di Forza Italia. D'altra parte, dietro questa cortina fumogena anche di insulti e di parole sgarbiane, si intravedono dei ragionamenti che non sono nuovissimi per Sgarbi. Però certo, sentirlo dire in questi termini, Berlusconi ha prodotto, sentiamo che cosa ha detto, sentiamo, è abbastanza nuova come cosa. Ha ragione Renzi, i nemici politici si combattono con la politica e non con la magistratura, tutto qua, l'unico punto è quello. Se vuol chiedere a me cosa penso di Berlusconi, ne penso peggio di quello che pensa questa zucca vuota che ho alla mia destra. Non ho un pensiero positivo su nessuna attività politica fatta da Berlusconi, sugli uomini che si è scelto, che sono molto peggio delle donne che si è portato a letto. Sto dicendo questo, che lo hanno eliminato con l'azione della magistratura, con un magistrato di Cassazione che è mille volte peggio di lui. Questo sto dicendo, se volete dire la verità. È chiaro che la cultura di Berlusconi non c'è, ha prodotto merda Berlusconi. Insomma, hai sentito cosa ha detto? Ha prodotto merda Berlusconi. Non Sgarbi. L'ho detto io, mamma, non l'ho detta io, che già oggi ho detto una parola che non no, volevo poi dire. Gli ascoltatori dicono che facciamo sentire solo quelli di sinistra. Giustamente Gabardini ha detto, questo l'ha detto Sgarbi, che è stato eletto, lo ricordiamo, due volte con Forza Italia, quindi non è colpa nostra. Insomma. Ah, io forse ho detto PDL, ma io non sono un giornalista, tra l'altro ci terrei a precisare. Precisiamo, mi raccomando. Siete due giornalisti? No, è un giornalista e uno stagista. Opinionista. Sentiamo poi questione di punti di vista su Enzo Biagi ed Emilio Fede, ancora Sgarbi. Biagi è stato beneficato da Berlusconi. Diritto bulgaro l'ha fatto diventare un eroe, 3 miliardi con cui ha chiuso il suo rapporto consensualmente con la RAI, l'altro è stato condannato a 7 anni, cacciato da Rete 4. Io dico, essere amico di Berlusconi evidentemente è una dannazione. (800) 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta. Tra pochissimo direi che riprendiamo a sentire i vostri interventi. Se non abbiamo già il punto di vista strambo, non ce l'abbiamo, no, li stiamo cercando. E allora sentiamo Pasquale che ci chiama da Rieti. Pasquale, abbiamo così accentuato la S. Pasquale, buonasera. Buonasera. No, non lo sentiamo Pasquale, sentiamo malissimo, recuperiamolo. Facciamo Enzo da Lecco, buonasera. Sì, buonasera, un attimo che parcheggio. Buonasera. Dove sta parcheggiando? E sto sul lago di Como, secondo solo. Prego. Vabbè. Ok, niente, volevo dire una cosa che farà rizzare i capelli a molti miei connazionali. Sì? Volevo dire che Silvio Berlusconi non è Jack lo squartatore, non è un trafficante internazionale di stupefacenti, non è uno stalker, non è un omicida seriale. Al contrario. Si fermi però, perché poi magari ne becca uno che lo è. Ok. Allora, Berlusconi è un imprenditore che ha creato aziende che danno lavoro a qualcosa come 100.000 italiani, se non di più. Se si considera l'indotto, arriviamo anche a 120.000. Ognuno di questi impiegati che lavora per le aziende di Berlusconi percepisce una busta paga sulla quale paga IRPEF, contributi, eccetera, soldi che vanno nelle casse dello Stato. Questo però cosa vuol dire, Enzo? Scusi. No, allora, guardi, io non voglio portarle via molto tempo. Io voglio semplicemente dire che in un paese è normale, la legge è uguale per tutti, non che se uno si chiama Silvio Berlusconi deve subire 50 processi, e lo dice uno che per Berlusconi non ha mai votato e che invece voterà per Berlusconi questa volta qui, lo dica a tutti quelli che chiamano. Senta, io volevo concludere con una semplice battuta. Concludiamo, allora, sì. Io conosco bene il mondo anglosassone perché ho vissuto molti anni in paesi anglosassoni. Io le posso dire che la magistratura di quei paesi ha innanzitutto la ragion di Stato a cuore. Allora, in un paese come l'Inghilterra, dove una principessa Diana viene assassinata e non c'è un giudice che apre un'inchiesta, non apre un fascicolo, apre qualcosa, perché succede questo in Inghilterra e non in Italia? Perché in Inghilterra c'è la ragion di Stato, c'è l'amor di patria, la gente ci crede nella sua nazione e di conseguenza i magistrati, pur di non gettar fango sullo Stato inglese, evitano di aprire fascicoli inutili. Allora, è stato aperto un fascicolo sul cavalier Silvio Berlusconi per un'evasione di 7 milioni di euro, quando invece le imposte, le tasse, i contributi che le aziende pagano, le aziende di questo signore pagano allo Stato, sono svariati miliardi di euro. Allora, io non ci credo alla sua colpevolezza ed è per questo che voterò per lui, ma ammesso e non concesso che fosse colpevole, un giudice sano metterebbe innanzitutto la ragion di Stato davanti. Ma quale ragion di Stato, scusi? Quale ragion di Stato? La ragion di Stato è molto semplice: se cade questo governo, cosa succede? Però scusi, non è che allora c'è l'impunità se cade questo governo, allora vuol dire che per non far cadere questo governo Letta può fare qualunque cosa? Io non credo che Letta possa fare qualunque cosa. Ai dirigenti dell'MPS, del Monte dei Paschi, della Unipol. Ma sono altre porcate che vanno assolutamente perseguite, che cosa c'entra? Non come, è che... come mai non sono mai state perseguite? Ma le stanno perseguendo, credo, no? Come mai l'ingegner De Benedetti è ancora lì al suo posto, quel che ha smantellato l'Olivetti, ha fatto di quelle porcate che neanche si possono dire? Perché è di sinistra. Allora, diciamolo chiaro. Allora, io non ho mai votato per Berlusconi, ho sempre votato a destra. Stavolta voto per Berlusconi. Va bene, va bene. Abbiamo capito che lei alle prossime elezioni voterà per Berlusconi. Allora, adesso invece è il momento del nostro punto di vista strambo. A quest'ora, come sempre, ogni sera. E questa sera torniamo in riva al Mar Tirreno, allo stabilimento balneare Big Fish, gestito tra l'altro anche da ex pazienti psichiatrici. Ritroviamo Daniela Gallo, buonasera Daniela. Mi hai ribattezzato, Diana, mi chiamo tutte sempre Daniela, mi chiamo Diana. Tutte le volte sbagliamo, e vabbè, insomma, Diana Gallo, che tra l'altro, sì, che tra l'altro oggi siete stati anche ospiti di Uno Mattina. Sì, sì, abbiamo avuto questo onore, stamani eravamo a Roma, c'ero io in studio insieme a Tenasio, che è uno psichiatra, e a un sociologo, Fiasco, e siamo stati intervistati un po' sulle tematiche della salute mentale, sullo stabilimento. E direi che Alessio è stato bravissimo, a forza di intervistarvi, direi che siete a Uno Mattina, mi sembra una bellissima notizia. Ci avevamo visto giusto, sì, insomma, tempo fa, la prima volta che ci siamo sentiti, nonostante che sbaglio il nome, però ecco. Ma i contenuti li metti buoni. Vi abbiamo portato fortuna. Certo, allora, ricordiamo brevemente chi siete, che cosa fate ogni volta, perché è passata una settimana l'ultima volta che ci siamo sentiti. Big Fish, stabilimento balneare a Pisa, avete vinto un bando del comune, che cosa fate? Un bando del comune per la gestione dello stabilimento, un stabilimento comunale, e noi abbiamo preso la concessione, l'abbiamo rimesso in piedi, appunto, in 2 mesi di lavori, in velocità, togliendo l'amianto, rifacendo le coperture con tutti i volontari dell'associazione che hanno avuto problematiche psichiche, e adesso lo gestiscono, cioè le persone che hanno avuto sofferenze mentali, hanno trasformato il disagio, stanno meglio, stanno tutte abbastanza bene, che sono in grado comunque di servire i tavoli, di spazzare i rivialetti che accompagnano le persone al mare, di pulire le cabine. Quanti sono le persone che ci lavorano, i dipendenti, i collaboratori? Ecco. Dentro una trentina tra dipendenti, collaboratori e volontari. Ecco, perché questo concetto di sostenibilità economica per voi è fondamentale, cioè voi dite queste persone si possono aiutare a superare i momenti difficili, però non solo con l'assistenza, con l'assistenzialismo, ma anche facendo cose che abbiano possano camminare con le loro gambe. Esatto, sì, o quantomeno, anche se non tutti riusciranno a lavorare, però hanno un ruolo sociale, anche un volontariato attivo è comunque un modo per spendersi nel mondo diverso da quello di essere un utente di un servizio e stare tutto il giorno a fumare 20 sigarette seduto su un divanetto. Cioè cambia completamente la qualità della vita, è un quadro diverso, è una prospettiva in cui la persona si sente parte integrante di un'organizzazione, socio di un'associazione, non un matto di un servizio di salute mentale, persona tra persona, e non appunto sano malato, la dicotomia sano malato, dicevo anche stamani in trasmissione, noi l'abbiamo superata. Infatti una delle domande che mi hanno fatto in diretta è: ma come, si stanno tutti bene, come mai? Ho detto perché abbiamo lavorato bene. Cioè loro bene, si aspettavano di vedere, di ripetere con le telecamere qualcuno che stesse male visivamente, questo, invece per fortuna... Questo è stato anche la volontà che Roberta Cerco, molto brava, ha trasmesso anche per lo spirito che volevamo trasmettere, cioè che è quello di un bagno speciale, ma assolutamente come gli altri, quindi non uno stigma, ma un luogo di integrazione dove le persone stanno bene, dove si respira un'area di solidarietà, dove la gente ci dice ci sentiamo bene, è un posto bellissimo, fate delle belle cose, proprio perché c'è questo spirito dietro di ripresa, c'è delle vite, di amore, di benessere. C'è anche Marco il cuoco che ci sta sentendo, lo chef. Sì, certo, buonasera. Eccolo qua, che tutte le sere quando ci sentiamo poi ci dà la ricetta, perché voi fate i corsi, no, di cucina lì proprio in riva al mare. Diciamo che io della ricetta vi faccio venire l'acquolina in bocca. Ecco, non troppa che è tardi. No, è tardi, non troppa acquolina, dico, sono le 7:30, io ho già una fame pazzesca. Ecco, appunto, vai. Perché per noi è presto, capito? Perché noi dobbiamo stare qua ancora un'ora e quindi non è. Cosa, per cucinare fa passare la paura, no? Cosa si cucina stasera a Big Fish? Cosa si mangia? Cuciniamo gambe del tartufo e poi cuciniamo del San Pietro con capperi, frutti del cappero, pomodori secchi. Frutti del cappero? Frutti del cappero, quelli di aperitivo. Sì. Il cappero col gambo, diciamo, in parole povere, con pomodori secchi e vernaccia di San Gimignano. Quindi prodotti anche, diciamo, della zona, perché la vernaccia di San Gimignano sì, certo, prevalentemente della zona. Ecco, e questa è una... sì, Diana, cosa anche quella è una scelta di fare un po' una filiera corta anche noi, quindi di rispettare le tradizioni locali, di fare prodotti che hanno a che fare con il nostro vissuto, con le nostre tradizioni, è che è molto importante, ecco. Anche se Marco ha uno spirito internazionale perché è stato un po' in giro dappertutto, abbiamo fatto però questa scelta. Me lo ricordo che è un po' cosmopolita, perché l'altra volta aveva parlato, se non ricordo male, della frutta alla catalana, qualcosa del genere, e ci aveva colpito in questa cosa. Diana, però in chiusura vogliamo anche dire una cosa: siccome in questi giorni si parla molto di casi di cronaca, di aggressioni, poi si sa che d'estate i casi di cronaca tipo gli omicidi ritornano molto, e l'associazione che spesso si fa è: queste situazioni uguale matti, No, è una cosa che io diciamo dissocierei, infatti lo dicevo anche stamani in chiusura, mentre poi purtroppo il servizio chiudeva, ma non bisogna associare l'omicidio alla malattia. Perché no? Mentale. Perché non è detto che sia così, cioè spesso l'omicidio è un omicidio volontario, premeditato, e non è che il raptus è un raptus, può essere una perdita di controllo del momento, però il raptus è più cioè spesso una scusa perché non si sa bene le spiegazioni, no? In realtà forme di violenza fanno parte purtroppo della brutta normalità che è fatta di sofferenze esistenziali, però non persone che hanno per forza una diagnosi psichiatrica, persone che stanno male in famiglia, che non riescono a trovare un equilibrio di coppia, che usano l'aggressività e la violenza anziché l'amore e la passione, quindi come dico sempre io, l'eros è rosso, la violenza è nera, no? Spesso è una trasformazione di un eros che non viene vissuto in maniera equilibrata e diventa aggressività, e ci sono delle cose molto complicate che ovviamente non sto ad addentrarmi rispetto alle disfunzionalità dei rapporti. Però ci sono anche delle ci sono anche delle situazioni difficili a volte, però nelle famiglie dove ci sono persone magari non assistite, che possono in qualche caso anche diventare anche pericolose. Certo, l'osservatorio dell'ospedale psichiatrico giudiziario, dove ci sono delle azioni che vengono fatte in situazioni di infermità mentale, però è tutto un altro mondo a sé che non è di fatto, insomma, l'omicidio che succede di coppia, quello che vogliono la riconoscere come femminicidio, anche lì ci sarebbe da dire molte cose, perché e poi soprattutto la parità dei diritti, e poi si riconosce diritti di genere, ma anch'io ho dei dubbi, insomma. Vabbè, su questa questione qua si potrebbe discutere, e poi soprattutto, insomma, se le persone che hanno dei disagi mentali non vengono abbandonate solo alle loro famiglie, ma ci sono dei servizi e ci sono anche delle attività come la vostra, allora sicuramente i problemi si possono risolvere. Grazie ancora a Big Fish, Diana grazie Gallo, mille. Marco il cuoco, prego, che ci ha messo la cuolina in bocca. E buona serata. Ciao, buona serata. Ciao anche a voi, ciao. Allora, siamo un po' in ritardo, 800 24 00 24, abbiamo la good news, poi la borsa, torniamo subito dopo con gli ascoltatori. And now, the good news! A partire da settembre, alcuni ragazzi di Caltanissetta viaggeranno su uno scuolabus alimentato con olio di frittura. I soldi per il carburante erano finiti e siccome il bisogno aguzza l'ingegno, le famiglie si sono mobilitate per raccogliere l'olio avanzato che verrà trasformato in biodiesel dal Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia. Al momento, più che alla frutta, siamo al fritto. Si può fare l'attualità anche d'estate. Intanto è uscita la nota del Colle. A quel che si sa al momento, c'è un flash d'agenzia che dice: serve un'azione di governo per il rilancio dell'economia. Il Colle no a far cadere il paese nell'instabilità. Vediamo se c'è qualche altro dettaglio da qualche parte. Intanto sentiamo gli ascoltatori. Chi è che abbiamo in linea? Vediamo. Giuseppe dalla provincia di Salerno, buonasera. Buonasera a loro. Buonasera. Innanzitutto complimenti per la trasmissione e per tutto lo staff dell'intera emittente. Io praticamente mi sono permesso di chiamare chiaramente perché ero stato mosso praticamente dalla vostra good news. Semplicemente perché... Quale? Quale? Quelle che in generale fate passare durante la vostra programmazione giornaliera. Sì, a tutte, non una nello specifico. No, in generale semplicemente perché tra tutto diciamo quello che viene fuori dai vari mass media, in effetti viene fuori un'immagine di un paese che è semplicemente devastato a livello politico. Mi piacciono le belle notizie. Perfetto, questo mi fa capire quanto di buono ci sia a livello nazionale che cova sotto la cenere. E con veramente una grande punta di amaro in bocca, in effetti mi sentivo di esternare questa mia considerazione che ritengo chiaramente molto molto personale e vorrei che fosse un invito a quella parte buona di noi italiani che alla luce di tutto quello che vediamo e sentiamo non sono luoghi comuni, però semplicemente insomma fare le valigie quanto prima e andare via da un paese che, mi dispiace dirlo, non merita quello che di buono insomma produce e non viene reso noto, perché alla fine personalmente mi ritengo a 42 anni veramente stanco di assistere a teatrini per i quali mi sento anche io colpevole per aver generato direttamente o indirettamente delle situazioni che siano politiche o quant'altro. Io mi scuso per questo sfogo, però in effetti sentire di belle storie che forse magari in molti casi il nostro paese non merita, e allora la sensazione è quella di fare quanto prima il passo più radicale, cioè quello di prendere le valigie, la famiglia e andare via, magari presso nazioni che forse... Ma lei sta decidendo di andarsene? Sinceramente sì. Ah. E le dico e questo va? Perché in qualche nazione sicuramente... Non siamo riusciti però, con tutta questa apologia delle belle notizie, non siamo riusciti a farle cambiare idea però. Anche perché sono belle notizie locali. Se noi iniziamo a dare belle notizie sulla Svezia e il Canada, è più facile. Tutti vanno via. Assolutamente, io quello che noto veramente a malincuore è che nonostante quel buono che c'è, che già normalmente va via all'estero come fuga di cervelli per intanto Napolitano, scusi, altri particolari, sì. Non mi è stata indirizzata alcuna domanda di grazia, delle sentenze bisogna prendere atto, questi sono alcuni degli stralci della dichiarazione di Napolitano che adesso ce la procuriamo tutta, prego Giuseppe, certo. Finisca. Io semplicemente non vorrei essere né tantomeno prolisso né dilungarmi su delle situazioni veramente, però in sintesi il mio pensiero era questo, cioè dopo che per anni da ragazzo io mi sono impegnato a livello civile, io opero molto nell'ambito sociale e sportivo, a livello diciamo regionale, nazionale faccio diverse cose, per cui il fatto di vedere che nonostante il nostro impegno, parlo di me come di tanti altri educatori sportivi, colleghi che veramente facciamo tanto, assistere in linea di massima e a, diciamo dall'alto ad una nazione che a livello scolastico potrebbe essere definito come il classico esempio del potrebbe fare di più, però alla fine la situazione è questa. E va allora bene. Sì. Sinceramente la delusione è tanta, per cui magari l'invito è... Non se ne vada, resti, ascolti ancora le nostre buone notizie, vedrà che le torna il buon umore. Grazie, andiamo, intanto stiamo cercando di trovare tutta la... la dichiarazione di Napolitano, perché è importante. Ripeto, flash d'agenzia, non mi è stata indirizzata una domanda di grazia ancora, perché questo è un altro particolare che però, va. Però come mai tutto il giorno che aspettiamo la risposta e la sua risposta è: non mi avete fatto la domanda? È strano, comunque. È una precisazione. Due giorni che si dice: sta per arrivare la risposta. La risposta è: perché non sai non che avete la grazia, fatto la grazia va domandata e va richiesta, ci vuole tutto l'istruttore. Solo alcuni possono farlo, che siano parenti, perché non possono essere altri del partito. Esatto, sì, esatto. D'accordo. C'è tutto un. Però che la risposta sia: non ho capito la domanda, insomma. Sì. No, beh, ci sono anche altre cose, tipo la sentenza è definitiva, bisogna prenderne atto. Edmondo da Milano, buonasera. Buonasera a tutti. Prego. Io vorrei fare una considerazione sul caso Berlusconi. Berlusconi, che però per me potrebbe andare bene questa considerazione, anche per Bersani, Grillo, qualsiasi altro politico che si trovi in questa situazione. In Israele il Presidente della Repubblica è stato condannato all'ultimo grado di giudizio per stupro e altre molestie sessuali, cose del genere. Gli hanno lasciato una settimana, questo mese di tempo per sistemare i suoi affari istituzionali, poi l'hanno preso e sbattuto dentro, ma non arresti domiciliari, attenzione, proprio dietro le sbarre. Qui chiaramente in Israele il Presidente rappresentava il 100% degli israeliani come Presidente della Repubblica e non il 16-17%. O anche il 20% che rappresenta Berlusconi qua in Italia. Io vorrei cioè, per dire cosa. A mio giudizio, Berlusconi o anche qualsiasi altra persona che domani si trovasse nella sua situazione dovrebbe andare dentro e la cosa che finisca lì. Altrimenti l'Italia perderebbe di credibilità anche all'estero, anzi direi soprattutto all'estero, nei confronti delle altre nazioni. Va bene. Gabardini, vuole aggiungere qualcosa? No, non credo che andrà in galera, nel senso che con l'età che ha, a un anno alla fine da scontare, farà gli arresti domiciliari. Dove andiamo? A Paolo che ci chiama da Napoli. Buonasera Paolo. Buonasera a voi. Tutto complimenti, non mi seguivo da un po', ma poi ho scoperto le nuove voci di questo spazio e ne sono contento. Grazie. Siamo qua solo d'estate, spazio Agostano, Agostano. Prima, non vabbè, abbiamo portato via al posto nessuno. No, prima ascoltavo Cruciani, ma sono ben contento di non ascoltarlo più. Vabbè, detto questo, io faccio il consulente, faccio commercialista, insomma. E faccio questo esempio per far capire una cosa. Io arrivo un precario da me un giorno con un accertamento dell'Agenzia delle Entrate in cui gli si chiedono 4.700 euro per omessa dichiarazione e soprattutto per non aver fatto la dichiarazione dei redditi. Quindi, qual era il motivo? Il motivo era che lui aveva avuto due rapporti di lavoro, anche due, aveva avuto un rapporto di lavoro precario presso una scuola e l'indennità di disoccupazione dall'INPS. Questo gli porta a... cioè la gente di entrata gli accerta questa dichiarazione. Ma è una storia lunghissima, arrivi al punto. No, vabbè, per far capire, allora alla fine cioè, voglio dire che un cittadino qualsiasi è costretto cioè un povero Cristo che fa un piccolo lavoretto, in più ha un'indennità di disoccupazione, si trova questa sanzione, cioè dover pagare 4.500 euro, vabbè, poi è stata ridotta, ma la sanzione è rimasta. Vabbè. E questo per dire che Berlusconi, vabbè, con un'evasione, quindi accertata in tre gradi di giudizio, ha diritto di dire che non quindi la volontà popolare, che poi queste parole si sentono soltanto da personaggi come Assad oppure come Morsi, e che la volontà popolare è assolutamente nulla, la legge va rispettata, io la rispetto. Vabbè, abbiamo capito nell'ultima parte poco perché non si sentiva benissimo, però abbiamo capito il senso di quello che lei stava dicendo. Restiamo a Napoli e sentiamo Antonio. Buonasera. Pronto? Antonio. Pronto? Eccolo qua. Buonasera. Antonio, buonasera. Senta, io prima di tutto avevo chiamato per il sindaco di Roma, per Ignazio Marino, per il quale io sono onorato di avere, come italiano, come avere un sindaco così per bene, una persona per bene ad amministrare la capitale d'Italia. Ma lei sta a Milano? Lei sta a Napoli o a Roma? Sì, io sto a Napoli, a Napoli, però sono onorato di avere... Sì, ottimo. È il sindaco della capitale d'Italia. Certo, certo. Anzi, vorrei dire, in quanto alla battuta che lei ha fatto, Maurizio, sul fatto del vigile cardiopatico in bicicletta. Se un vigile è cardiopatico, io credo che non possa stare nel traffico neanche a piedi. No, ma ha capito, no? Era una presa di posizione del sindacato dei vigili. L'ho detto a Marino per dire quante difficoltà ci sono a superare. Sindaci, sindaci come Marino, una persona per bene come Marino, come il sindaco di Milano, come il sindaco di Napoli, come il sindaco di Palermo, amministrare queste città così difficili, anzi io vorrei dire a tanti di coloro, anche del centro-sinistra, che si preparano a fare i leader, casomai i primi ministri, io credo che dovrebbero andare un po' a lezione da Marino. Marino potrebbe insegnargli molto, perché non è facile amministrare. Ma magari vuole farlo lui il primo ministro, Marino stesso? Dice che vuole insegnare ad altri a fare il primo ministro? Io credo che ne dovremmo essere tutti contenti, perché io credo che per esempio qualche primo ministro, qualcuno che si candida al primo ministro solo perché sta amministrando una città felice e non una città difficile, ecco, le ripeto, come la mia città, come Palermo, come Bari, come Roma, come Milano. Certo, dici io li vorrei vedere, non hanno amministrare una città, li vorrei far amministrare una circoscrizione, tipo, non so se lei conosce, Barra Ponticelli San Giovanni o Scampia Secondigliano Giaiano, li vorrei vedere in quelle condizioni. Poi vorrei dire ancora un'altra cosa sulla riforma elettorale. Io credo che la riforma elettorale vada fatta, perché noi dobbiamo sceglierci il candidato che mandiamo alla Camera o al Senato, li dobbiamo conoscere, dobbiamo avere come tenevamo una volta il collegio dove noi conoscevamo il candidato senatore o candidato deputato. Non possiamo ritrovarci candidato al nostro collegio una persona che non conosciamo, non sappiamo neanche chi è, ce lo troviamo candidato solo perché ci viene imposto, tipo anche hanno scelto il movimento, no? Il movimento, si sono scelti questi qua per via web, ma quante persone hanno votato? Va bene, Antonio, grazie anche a lei. Abbiamo capito, no, però adesso ci stiamo dilungando un po' troppo, anche perché nel frattempo abbiamo recuperato la nota di Napolitano, il capo dello Stato, che è uscita. Ed era la presa di posizione attesa prima di Ferragosto per così dire una parola, dirimere questa questione dell'agibilità politica di Berlusconi. Allora, la nota dice sostanzialmente: delle sentenze bisogna prendere atto. E parla della sentenza del caso Mediaset. È legittimo che si manifestino riserve e dissensi rispetto alle conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione, dice sempre Napolitano, però non deve mai violarsi il limite del riconoscimento del principio della divisione dei poteri. E poi ricorda che nessuna domanda di grazia o di intervento gli è giunta da parte di alcunché, e che nei casi precedenti la grazia è stata concessa semmai dietro richiesta. E quindi Napolitano ricorda questa cosa qua. Cioè, Non è neanche stata fatta la richiesta. No, non è stata fatta la richiesta, questo si sapeva già, e quindi lui dice: al momento io, più che dire che la sentenza va rispettata e riconoscere legittime le istanze del PDL che vuole questa agibilità politica per Berlusconi, non posso far altro. E questo, diciamo, è al momento la nota del capo dello Stato. Quello che insomma siamo riusciti si a evince. Si evince. Poi non so se qualcuno, andando a leggere tra i cavilli di queste tre pagine di Napolitano, anche potrà interpretare un linguaggio che va a capire. Ci vuole il quirinalista, però io credo che io no di sicuro che è questa lo stato dell'arte. A questo punto abbiamo un altro ospite, parliamo della questione delle grandi navi a Venezia. Avete sentito che di nuovo Adriano Celentano sul Fatto Quotidiano ha ritirato fuori questa questione, attaccando un po' tutti, dal sindaco di Venezia al presidente della regione Veneto Zaia e il presidente soprattutto dell'autorità portuale di Venezia Paolo Costa. Noi lo abbiamo convocato. Buonasera Costa. Buonasera. Ex ministro di un governo Prodi, è vero, tra l'altro? Del primo governo Prodi. Ministro dei Lavori Pubblici, lei successe a Di Pietro, che si dimise subito. Sì, esattamente. Ora, lei ha già replicato a Celentano dicendo che era meglio quando cantava, e questo è un refrain classico. Quella è stata la battuta, sì. Però poi ho scritto una lettera a Celentano, quindi... Ecco, perché nel merito di questa cosa qua non si capisce, perché sembra che convenga a tutti questa cosa delle grandi navi, ai commercianti, ai turisti, agli armatori, al comune che probabilmente incassa anche qualcosa, però poi sono tutti contrari e nessuno si vuole assumere la responsabilità di questa cosa che, prima di tutto, è pericolosa o no questa cosa delle grandi navi che sfiorano Piazza San Marco? Mettiamo un punto fermo e poi di tutto, che sulla opportunità di far arrivare le navi dove arrivano oggi, la stazione marittima, sì, non passando davanti a San Marco, sì, siamo d'accordo tutti. Però continuano a passare. Sì, tutti. Questo è quello che Però continuano a passare, mi scusi Costa, o no? Certo, continuano a passare perché diciamo, di questo problema, adesso mi tocca dire che avevo visto per primo io la cosa, ma insomma mi scusino loro e soprattutto coloro che ti ascoltano. Me ne ero accorto nel 2004, c'era stato, io facevo il sindaco di Venezia quella volta, c'era stato un piccolo incidente, si era incagliata una nave una mattina davanti a San Marco, ho detto no guarda questo non può più succedere, sì. E avevo cominciato a immaginare come far entrare le navi da una bocca di porto diversa, non da quella del lido in cui normalmente entrano, e seguire la stessa strada che seguono le navi commerciali, quelle che vanno a Marghera, poi deviare all'ultimo momento e arrivare a Venezia da dietro in modo tale che si poteva mettere due cose. Questo era nel 2004. Però poi il punto è che le navi si avvicinano al di là di dove passano, si avvicinano volutamente, è il famoso inchino. No, no, questo anche qui c'è un altro problema che va chiarito. Ma come no, scusi, si vede proprio dalle io non ci sono stato recentemente, non mi è capitato, sì, però sì, si vede dalle immagini, ed è una cosa fatta proprio, e forse anche promessa a quelli che vanno in crociera, passeremo sopra Venezia. No, guardi, li assicuro di no, ma ripeto, anche se stiamo parlando, insisto, di un problema che io tendo a superare, cioè nel senso che non passano più davanti, così non fanno né inchini, né voluti, né non voluti, così. Però anche lì, come dire, il tracciato che seguono le navi quando passano di San Marco è un tracciato stabilito entro un canale di 80 metri, che è solo scavato per quello, più profondo, ai lati di quello non si può andare, la nave non può andare in piazza San Marco, non c'è nessuna possibilità. Naturalmente però... Cioè in che senso la nave non può andare? Certo che non può andare in piazza San Marco, però... No, ma non può avvicinarsi, perché... Scusi, attualmente canale... a quanti metri dalle case? 80, 90 metri, 100 metri, 200 metri, adesso non mi faccia dire numeri che poi qualcuno... Cioè mi dirà, attualmente le navi non vanno, lei mi dice che attualmente le navi non vanno più vicine di 80 metri, allora, cioè non sono più in un raggio di meno di 80 metri, a me non risulta. Allora, mi faccia dire una cosa. Sì. Il decreto dice... che giustamente tutte le navi che passano lungo le coste dei mari non devono avvicinarsi più di tanto, 2 miglia marine. Naturalmente, quando è che le navi si avvicinano di più? Quando arrivano, cioè la nave che arriva in porto a Napoli, sì, non può stare a 2 miglia lontano, andrà pure dentro. Certo. La nave in porto a Trieste andrà dentro, andrà fino in Piazza Unità. La nave che arriva in porto a Venezia, ci sono dei luoghi, sì, dei pezzi, dove deve per forza arrivare, quindi è ovvio che lì si avvicina di più. Dove la fotografia... Come ma dire, scusi, Costa, le faccio, scusi, abbiamo capito, le faccio una domanda. È per questo che nel decreto di cui lei parla, che era stato fatto, sì, dopo la questione del Giglio e della Costa Crociere, c'era una deroga per Venezia? Perché... No, è il contrario, A Venezia si impone una cosa in più, perché a Venezia si regola anche come si arriva, mentre in tutta Italia si regola come ci si passa vicino. C'è stato qualcuno che dice che a Trieste non si può arrivare fino al porto dentro, che a Napoli si può andare alla stazione marittima, ovviamente no, e quindi neanche a Venezia, però a Venezia si dice sì, guardate, voi potete ovviamente arrivare, però per favore cercate di non arrivarci passando davanti a San Marco, che è una cosa diversa dall'inchino, lo struscio, non c'è assolutamente niente con tutto questo. Insisto, la distinzione è tra regolare il passaggio vicino alla costa e regolare il modo in cui si arriva. Nel caso di Venezia l'eccezione è fatta che si rende più vincolante, più stretta, più obbligato, e gli si dice per favore, questo dice il decreto, trovate una via alternativa. Sì, però nel momento in cui la via, sì, alternativa è trovata, non passeranno più davanti a San Marco. Cioè io non ho capito se secondo lei, che è il presidente dell'autorità portuale di Venezia, le cose attualmente vanno bene così come sono o invece vanno cambiate? Non vanno bene così come sono, va bene? E la ipotesi per arrivare in modo diverso, sì, in marittima è allo studio da alcuni anni. Purtroppo nel nostro paese in questi anni i soldi mancano e quindi non si è riusciti ad andare avanti fino in fondo. Io mi auguro che questa sia la volta buona, che troviamo un po' noi, un po' i passeggeri delle navi e un po' lo Stato italiano i soldi per farlo. Ma non sarà che questa cosa in realtà ha una convenienza, appunto, come dicevamo, per tutti? Perché magari gli armatori, cioè, lo vendono proprio come inchino a Venezia, no? E i commercianti poi sono contenti perché magari, allora, io capisco, si io può scattare la foto con la nave dietro. Io capisco che questa cosa possa, come dire, sia difficile da ammettere. Ma no, è difficile da capire come mai in anni e anni non si è trovata una soluzione quando invece c'è una legge e c'è una situazione particolare per Venezia. No. La soluzione, sì, noi l'abbiamo trovata e presentata, sì, ben prima della legge, tanto è vero che il mio ultimo proposta, riformulazione del progetto al ministro Clini è avvenuta 2 mesi prima dell'incidente del Concordia. Attenzione, riproponendo un progetto che avevamo già messo a punto nel 2004, quando io ero sindaco e avevo a dare al governo i poteri di cosiddetto commissario governativo per la lotta al motondoso, con i quali si sarebbe potuta applicare la... Ma poi quindi chi è che ha l'autorità, mi scusi, Costa, di intervenire e di far cambiare una situazione che lei, che è il presidente dell'autorità portuale di Venezia, quindi non è certo l'ultimo arrivato in questa materia, dice la situazione non va bene, va cambiata, abbiamo anche il modo per cambiarla, chi è che non sta intervenendo allora? Chi è che ferma tutto? Diciamo che la soluzione presuppone un intervento in laguna costoso, un intervento in laguna che sostanzialmente di deviare un canale per 4 chilometri, di approfondirlo, perché il canale esiste già, per 4 chilometri, che costa 50-60 milioni di euro. E chi dovrebbe farlo però? Questo sono compiti dello Stato, normalmente. Però cioè, questo anche lo dice lei, magari il ministro mi direbbe che tocca a voi. No, la legge è così, ma io, siccome so che è inutile dire compito dello Stato, perché vuol dire solo nascondersi dietro un dito, perché poi troveremmo che non trovi i soldi e così via, abbiamo anche ipotizzato che sì, e sono convinto che non ci sarebbe nessuna difficoltà, se noi, adoperando norme esistenti o cambiando la norma, chiedessimo, e credo che nessuno di passeggeri che passa, 5 euro a passaggio ad ognuno dei passeggeri, noi avremo la rata di mutuo necessaria per fare tutte le opere che ci servono. Questo è quello che abbiamo proposto ultimamente, il 25 luglio di questo anno, ai due ministri Lupi e Orlando, che hanno con noi convenuto che a settembre i ministeri competenti esamineranno il progetto. Questo o altro, che qualcun altro abbia qualcos'altro di meglio da fare, perché non ho nessuna... Non è che quindi diciamo, coi ministri Lupi e Orlando state lavorando per fare entro quanto? Per la decisione da prendere entro ottobre. Entro ottobre. Ecco, quindi un intervento per spostare, diciamo, il per tratto... Per entrare, non più dalla bocca di lì, insomma, per arrivare comunque dove si arriva. Sì. Perché le spiego adesso qui... No, però esatto, abbiamo capito in parte, diciamo, l'aspetto tecnico. Cosa è, questa è l'ultima cosa che le voglio chiedere, cosa si rischia attualmente, visto che la situazione comunque non va bene, lo dicono tutti, lo dice anche lei? Cosa... Allora, incrociamo le dita, nel senso che non... è successo che in fondo, pensa bene, stiamo tutti discutendo ormai da un anno di Venezia e i problemi sono successi a Giglio e a Genova, e quindi a noi è andata finora molto molto ma meglio, vogliamo evitare forse che succedano anche altrove, no? È questa la ratio è questo che stiamo immaginando di fare. Diciamo che le precauzioni che stiamo prendendo ora, lei tenga presente che la nave quando entra a Venezia, per obbligo che abbiamo imposto noi localmente, ha un comandante, 2 piloti e 2 rimorchiatori attivi. Se noi, mi faccia fare la battuta, avrò bisogno di 5 schettino contemporaneamente per poter sbagliare, insomma, no? Ecco, diciamo, questo è quello che umanamente abbiamo fatto e messo insieme, ma mi rendo perfettamente conto che non possiamo permetterci neanche di immaginare un rischio prospettico, e quindi lo fare. Però mi pare che sia ragionevole che lo facciamo, perché il modo più semplice è quello di dire cancelliamo le crociere. No, il rischio prospettico, parliamo dell'incagliamento comunque di una nave o di una qualche, addirittura una collisione. Forse fa discorsi da terroristi, altre cose che insomma non voglio nemmeno evocare, perché non è neanche caso, come dire, di catastrofisti, di servizio permanente effettivo, ce ne sono già abbastanza nel nostro paese, quindi non... Vabbè, noi stiamo cercando di parlare del tema della prevenzione, e invece il tema dell'erosione del canale, questo c'è, mi sembra che lo dicesse anche lei, cioè... Il rischio che si stravolga la laguna in questo sistema. Il giusto problema che è stato sollevato è, ma attenzione, siccome già in quasi 40 anni non sono gli effetti del cosiddetto canale di petrolio sulla laguna, se andiamo a scavarne un altro è peggio ancora. Bene, allora è per questo, la parte finale del lavoro che stiamo facendo qui in questi mesi, stiamo immaginando che questo intervento non sia lo scavo di un canale, ma un progetto di recupero ambientale e morfologico della parte di laguna su cui passerà questo canale, e se possibile anche dove c'era quello di prima. Ci risentiamo a ottobre, allora, visto che hai detto che c'è un appuntamento con i ministri. Noi dobbiamo fermarci qua, abbiamo la pausa irrevocabile. Grazie a Paolo Costa, presidente dell'autorità portuale di Venezia. Torniamo tra un attimo con il numero verde 800 24 00 24. A dopo. And now, the good news! Si chiamano Informatici Senza Frontiere e sono un gruppo di cervelloni che realizzano progetti di solidarietà in Italia e nei paesi in via di sviluppo. Donano computer usati a chi non ne ha, tengono corsi nelle scuole, sviluppano software per gli ospedali, le carceri e le scuole. A volte anche i nerd hanno un cuore. Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 0024. Tra un attimo riprendiamo a sentire i vostri interventi. Sentiamo se i titoli di Sky TG24 sono quelli delle 20. Li vogliamo sentire? Proviamo. Sentenza Mediaset, la nota di Napolitano. Una crisi sarebbe fatale. Delle sentenze definitive bisogna prenderne atto. Marina Berlusconi chiude una volta per tutte all'impegno politico. Ipotesi mai presa in considerazione, dice la figlia del Cavaliere. Lo spread torna ai livelli pre-crisi, ai minimi da luglio 2011. Borse in rialzo, Milano chiude a più 0,68%. Uccisa dall'ex, l'accusa punta sulla premeditazione. Intanto a Siracusa un altro femminicidio, lui era stato denunciato. Ancora una tragedia in montagna, due alpiniste italiane uccise da una valanga sul Monte Bianco, grave la guida. Nuovi sbarchi, soccorsi in mare 171 migranti, poi giunti a Siracusa, per lo più sono donne e bambini. Il 14enne gay che si è tolto la vita a Roma si indaga per istigazione al suicidio. Verranno ascoltati gli amici citati nella lettera d'addio. Domani Italia-Argentina in onore del Papa, fuori Balotelli e Messi, infortunati, Bergoglio ai giocatori, siate uomini prima che campione. Va bene, questa era Sky TG24. Abbiamo qualche qualcosa su Twitter, per esempio la questione Scialpi, per esempio. No, la questione Scialpi è salita? È sempre ferma, è scesa. Punto lui insomma minaccia la querela e, come ti ho detto, la linea difensiva di chi ha twittato qualcosa di molto brutto su Scialpi è: comunque Scialpi è il mio gatto. Che mi sembra molto bella come linea difensiva, perché allora vale tutto, giusto? Vale tutto. C'è qualcosa bello invece su Napolitano? Sta montando su Twitter qualche commento, qualche instant? Al momento no. C'è invece la posizione Papa Francesco, se ti interessa. Certo, perché adesso c'è l'incontro con i giocatori della nazionale italiana, argentina, esatto. Calcio, eccetera. Papa, perfetto, c'è tutto. Abbiamo anche il TG1, titoli. Nota di Napolitano sul caso Berlusconi, crisi sarebbe fatale, prendere atto delle sentenze, non ho ricevuto richieste di grazia. L'attesa di Silvio Berlusconi ad Arcore con i suoi collaboratori e intanto la figlia Marina dice: non scendo in politica. In Sicilia attira la moglie con una scusa e la uccide davanti al figlio di 4 anni, lei lo aveva denunciato per stalking. Gli sbarchi dei migranti, sempre più bambini a bordo dei barconi che arrivano sulle nostre coste, l'ultimo con 66 minori. La truffa del pieno, controlli della finanza nei distributori in tutta Italia, gasolio annacquato e contatori manomessi. Montagna d'estate, come sono cambiate in 50 anni le località preferite dai turisti, il viaggio del TG1 stasera a Courmayeur. Papa Francesco riceve le nazionali di calcio di Italia e Argentina, per me sarà difficile tifare, dice Bergoglio, siate uomini prima che campioni, domani sera l'amichevole a Roma, senza Messi e Balotelli, infortunati. E allora, come detto, ricominciamo a sentire gli interventi degli ascoltatori. Abbiamo Marco che ci chiama dalla provincia di Massa Carrara. Buonasera Marco. Buonasera. Prego. Sì, io volevo soltanto dire una cosa, che abbiamo in Italia non vogliamo cambiare la mentalità, perché io vengo da una provincia che è storicamente molto famosa per l'estrazione del marmo, qua il 70% del materiale che viene portato fuori in nero, completamente senza fattura. Perciò è nessuno che controlla tutto questo. Nel senso che viene acquistato, pagato, ma nessuno fattura? Certo, un 70% viene fatto in nero, evaso, e 30% in fattura. Ma è tantissimo, ma lo dici un po' come se lo dovessimo sapere tutti? No, ma lo sanno tutti qua, perfetto. Non solo qua. Qua lo sanno tutti, lo sanno i cinesi, lo sanno gli indiani, lo sanno gli arabi, lo sanno tutti. Tutti meno gli italiani, direi, e la Guardia di Finanza. Qua, secondo me, meno la Guardia di Finanza. E basta. Cioè, lei auspicherebbe un bel serie di controlli dalle parti di Massa Carrara per vedere questo marmo, che certo non è invisibile, insomma, non è che può essere fatto sparire. Ma telefoni alla Guardia di Finanza subito, scusi. non è un caffè. Ma telefoni alla Guardia di Finanza, se è certo di questo 70%. Tra l'altro noi oggi, io e Gabardini, abbiamo proprio assistito a un blitz della Guardia di Finanza, esatto, in un bar di Milano ad agosto. E possiamo anche dire che noi avevamo... Tra l'altro era l'unico aperto, esatto, in quel io momento. Io avevo una birretta in mano e l'avevamo fuori dal bar e non, in teoria non c'erano i tavolini, quindi ci siamo iniziati a chiedere, ma adesso ci faranno una multa. Avevamo questo per dire e tutto, che la Guardia di Finanza lavora, fa il suo dovere, ha beccato l'unico 14 bar, per un bar aperto a Milano, tra l'altro, che già è un miracolo e un miraggio. Questo però non vuol dire che non debbano sottostare ai controlli, ma il nostro ascoltatore ci dice: ma venite qua a Massa Carrara dove girano, quanto vale il marmo? Cioè, non lo so, un blocco guardi di marmo da... sono cifre esorbitanti. Ma lei si occupa 2000, di marmo? Da 2000 quanto? Euro arriva anche a 4800 euro la tonnellata, i marmi più pregiati. Quindi insomma parliamo di cifre grosse. Ma voi lì che siete nella zona sapete per consuetudine che il marmo estratto poi viene portato via tutto in nero. Il 70% mi sembra 30% in fattura, 70% in è sufficiente, direi, per fare una denuncia. Che dice? Non sono io che devo fare la denuncia, perché è talmente palese la cosa che... Ma e come mai secondo lei non fa niente? Un organo competente che valuti le c'è, è la Guardia di Finanza. C'è l'organo competente. Ma come mai secondo lei la Guardia di Finanza non fa niente? Lei sa tutto, sa benissimo che viene portato fuori il marmo. Il perché non lo so, non lo so. Io non so il perché nessuno, una magistratura, un organo superiore non si ponga il problema. È uno dei tanti perché senza una risposta della storia del fisco italiano. Grazie Marco, però grazie per la sua segnalazione da Massa Carrara. Magari qualcun altro ci può chiamare per confermare questa situazione, perché certo un caffè si può imboscare, si può nascondere, ma un blocco di marmo è un po' più difficile, quindi dovrebbe essere più facile per chi controlla arrivarci. Vittorio da Milano, buonasera. Buonasera, desideravo tornare un attimo sul discorso dei passaggi delle grosse navi da crociera, sì, a Venezia. Sì. A me risulta una cosa che bisognerebbe verificare proprio fino in fondo, ma me l'hanno data per certa con una grossa percentuale, che ogni volta che una di queste navi da crociera passa attraverso il canale di San Marco elargisce al comune di Venezia 100.000 euro. Volevo semplicemente chiedere a qualcuno magari più dentro in queste cose un po' politiche, doveva chiedercelo prima. No, io a Costa gliel'ho detto, ho detto conviene a tutti, conviene agli armatori perché questa cosa la promettono anche se non formalmente, magari a chi viaggia. Promette al comune perché qualcosa ci guadagna da questo passaggio e lei ce lo sta confermando in questo senso, però naturalmente la sua è una, come si può dire, una denuncia anonima, non ha prove. Certo, è una denuncia anonima. Cioè neanche una denuncia, è una frase detta così. Sì. No, io le dico questo perché ho una figlia che lavora su queste navi da crociera. E per cui insomma... Ci passi sua figlia, chiediamolo a lei. Scusi, allora la figlia le ha dato questa informazione? Ma non solo lei, non solo lei, anche qualcun altro. Naturalmente 100.000 euro in nero, tanto per... Perché in nero? Perché non è legale questa cosa. Ma tra l'altro Costa, nell'intervista di prima, non ha detto esattamente che se a ogni passeggero si chiedessero 5 euro per il chino si potrebbero fare un sacco di cose. Che quindi è poi questa cosa qua, cioè di dire... Perché non è che si può andare, credo, a chiedere ai passeggeri... Sale la polizia di... Cioè i vigili di Venezia chiedono uno a uno a tutti i passeggeri di ogni crociera che per ogni chino devono dare 5 euro. No, ma lui l'aveva messa in forma ipotetica, invece qua ce la danno come forse una esiste cosa. Già una tassa di passaggio che tra l'altro forse è anche normale che ci sia, non credo che sia un... Vittorio, grazie per questo suo contributo. Era solo un conto economico, un conto della serra, se vogliamo. Queste navi qui normalmente portano 4.500 passeggeri alla volta, per cui si fa anche presto fare un conto pro capite di cosa costa, di cosa incide per passeggero, insomma. Ma naturalmente noi dobbiamo, come dire, prendere anche le distanze da quello che ha detto Vittorio, cioè non è una cosa che diciamo noi, ci siamo documentati. Vittorio lavora, la figlia che lavora su una di queste navi, e risulta questa cosa, questa voce, quindi chi lo sa. Andrea da Lecco, buonasera. Eccomi, vi sento ad agio. Come? Come? Mi sentite? Io vi sento molto ad agio. Sì, ad agio in che senso? Nel senso a volume basso? Siamo tranquilli. No, noi la sentiamo bene, Andrea. Prego. Acceleri se ci sente ad agio. No, niente, io volevo intervenire sul discorso di Berlusconi, che a me va bene tutto. È stato giudicato dovrebbe andare in galera, che vada in galera se è colpevole, però mi piacerebbe che dall'altra parte quello che è lo Stato, io lo vedo come uno Stato delinquente, addirittura mafioso, e quindi mi piacerebbe che lo stesso... Scusi, uno Stato delinquente è uno Stato mafioso, addirittura? Sì, mafioso, io la vedo perché? Lo Stato come mafia, perché i dirigenti, i politici, per me sono tutti mafiosi. Beh, ma se mafioso. Tutto lo Stato è mafioso, e allora anche la magistratura, perché fa parte dello Stato, ma quindi certo, come faccio? Certo. E allora niente ma galera, niente sentenza. Sono mafiosi anche loro. Adesso io non lo so, andrò incontro qualche volta, però no. Per me tutto quello che è stato lo vedo ormai, perché sennò l'Italia in tutti questi 20 anni di politica. Ma lei che lavoro fa, Andrea? Non è che è un dipendente pubblico, è mafioso anche lei, no, fa parte dello Stato. No, sono dipendente pubblico, no. Meno male. Io sono un dipendente e so quante tasse pago. Ma ha qualche parente che lavora in un ufficio pubblico? Una... No, non ho nessun parente. Nessuno. Che lavora in Comunque direi che... Purtroppo, perché purtroppo non ho nessun parente che fa il dipendente, se no probabilmente mi ero già sistemato e non ero qui che tribulavo con la mia vita. Vabbè, ma lei che cosa fa nella vita, Andrea? Se ce Io lo vuol sono dire. Progettista meccanico. Cioè sono di cosa si occupa? Progettazione di macchinari nella meccanica, lavoro nella meccanica. Ma è libero professionista o un'azienda? No, un'azienda, facciamo macchinari, so quali sono le difficoltà che l'azienda ha vissuto in questi anni. Ma sappiamo, l'azienda, che Andrea, dobbiamo andare a lavorare, è sua l'azienda? Lo Stato, no, non è mia. Lei è dipendente, sì. Sì, lo Stato, so che quanto lo Stato è socio di questa azienda, perché con tutte le tasse che prende, so che le tasse le pagano. No, a differenza magari di questi qui di Massa Carrara che fanno un sacco di nero, questa è un'azienda che non può fare nero, perché lavora con l'industria, lavora con magari con la pubblica amministrazione anche, no? No, non si lavora con la pubblica amministrazione, perché con la pubblica amministrazione devi essere intrallacciato, devi essere mafioso. Però scusi, concludiamo l'intervento, perché lei è partito dicendo Berlusconi, eccetera, allora, eccetera, sappiamo prima, un signore però che lo Stato è mafioso, quindi diceva io me ne vado via dall'Italia. Sì. Ha ragione. Voi fate una trasmissione che dite i giovani devono tornare in Italia, ma qui sono le aziende che vanno fuori dall'Italia, perché questo è un paese che è gestito da dei mafiosi. E vabbè, ma non le è che ci sono solo più e se ne vanno fuori dalle valle. Va bene, come Andrea, grazie. Tra poco le faremo sentire invece una bella storia nella quale c'è un'impresa che funziona e che ha creato un sacco di posti di lavoro. E direi che in risposta al fatto che Berlusconi deve andare in galera, dalle parole di Napolitano, che dice molto chiaramente che la normativa vigente esclude che Silvio Berlusconi debba espiare in carcere la pena detentiva irrogatagli e sancisce precise alternative. Quindi, questo è un passaggio che non avevo letto, è vero, lì chiarisce che Berlusconi non va in carcere, e direi che secondo, a meno che, come dice la Santanchè, siccome agli attributi ci vuole andare lui direttamente. Non so cosa succederebbe se uno si presenta davanti al carcere con gli attributi, dicendo entro, dice no, lei non può entrare perché ha detto Napolitano che lei non può entrare. No, io entro lo stesso. Mi sembra una bellissima gag. Francesco dalla provincia di Trapani, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera, grazie per aver richiamato. No, volevo semplicemente fare una piccola considerazione circa l'intervento di Sgarbi ieri sera. Sì. Lei l'aveva visto in onda quella cosa lì? Sì, l'ho vista in onda. Sì. È alquanto surreale che si sostenga che Berlusconi che non è esistito, che è un fenomeno comico. Insomma, da 20 anni a questa parte credo sia innegabile che Berlusconi ha determinato in buona parte i destini dell'Italia. Direi che è innegabile, assolutamente. Quindi secondo lei Sgarbi ha fatto una specie di gioco delle tre carte? Cioè una specie sì, vabbè, fa insomma lo spettacolo che gli è consueto, ma insomma... Forse scende dal carro nel momento che pensa che sia meglio scendere dal carro. Vabbè, questo voleva dire Francesco? Sì, volevo dire questo. Grazie. Andiamo a Danna che ci chiama da Roma. Buonasera. Sì, buonasera. Io volevo parlare del gigolò. Sì. Perché quel signore ha detto che lo Stato gli fa pagare le tasse e non gli sembra giusto perché non è un lavoro riconosciuto. io non sono una, non faccio il mestiere, eh? Comunque questo non ne ha importanza. E lei ha detto, ma qual è con questa scusa, non vuole pagare le tasse, però volevo, perché io lavoro nel campo dei contributi delle cose, che in realtà lavora nel campo questo dei... signore, scusi, lavora Anna. Anna lavora nel campo dei contributi. Sì, insomma, la seguo queste cose. Dicevo, non è come il suo assistente che dice fa la ricevuta, farebbe una ricevuta falsa. Per fare ricevuta bisogna iscriversi, avere una partita IVA e dimostrare se fa un mestiere. No, no, certo, quindi, ma io la cosa che gli proponevo era esattamente questa. No, io lei ha detto, ecco, questa scusa non vuole pagare le tasse. Ma no, no, ma lui le vuole pagare le tasse, scusi signora, lui vuole pagare le tasse, è che pretende giustamente di pagarle con la sua specifica, cioè come gigolò. E io semplicemente... Ma l'ha detto, con questa scusa lei non vuole pagare le tasse. Sì, questo gliel'ho detto io, gliel'ho detto io questo, sì. Perché non è una scusa, e non ha un mestiere, non può fare ricevute, o lo Stato riconosce il mestiere, uomini, donne, chiunque... Io ho 66 anni e non so una mignotta, però mi sembra giusto quello che ha detto il signore. Sì, no, io quello che propone, anzi glielo chiedo, visto che lei si occupa di contributi, nel senso che uno che fa lo gigolò può prendersi una partita IVA da massaggiatore e rilasciare delle fatture? Ma non fa un massaggio, no, ho detto impropriamente i contributi. Io ho lavorato con uno studio che... Non se ne intende dei contributi? Sì, abbastanza, ma non esiste un mestiere, non può fare il massaggiatore. Come non esiste? Adesso il massaggiatore non esiste. Secondo me ci vuole. Ci vuole un pronunciamento di napoletano anche su questo, deve dirci una parola, perché è un caso insolubile questo qua, è chiaro che non c'è soluzione, perché che cosa deve pagare questo signore? Deve pagare delle tasse, farà un patteggiamento col fisco. Non è una scusa. Sì, Anna, va bene, grazie, farà un patteggiamento col fisco, pagherà qualcosa, non ci potranno scrivere sopra nulla, nessun titolo, perché quello che lui fa non esiste per la legge. E loro comunque, non li accetteranno. Cosa fa il fisco? No, li accetteranno, come no? No, certo, no, li accetteranno dicendo è una multa, perché chiaramente lei deve aver guadagnato dei soldi, non si butta per via nulla, però certo che è una cosa che chiede di essere regolamentata in qualche modo, non era infondata, esatto, la richiesta. Esatto, del ricordiamo gigolo. Che il nostro gigolò intende pagare le tasse e nessuno di noi ha detto che lui non voglia pagare le tasse. Va bene, facciamo una good news, poi il traffico. And now, the good news! Grazie a un accordo tra l'amministrazione penitenziaria della Lombardia e l'Università di Milano Bicocca, nelle carceri di Bollate, Monza, Opera, San Vittore e Lodi, sarà possibile per i detenuti seguire i corsi universitari. Le statistiche ci dicono che ogni detenuto coinvolto in questi progetti è una persona in meno destinata a compiere nuovi reati. Studia e fatti libero! Si può fare l'attualità anche d'estate. Riprendiamo a sentire i vostri interventi. Abbiamo Riccardo che ci chiama da Bologna. Buonasera Riccardo. Buonasera, volevo fare un paio di interventi. Sì. Per quello che riguarda il porto di Venezia, per quello che riguarda Venezia, indipendentemente da chi ha ragione o da chi non ha ragione, se ha ragione Sedentano, se ha ragione il dottor Costa. Se il dottor Costa, il responsabile del porto di Venezia e la capitaneria di porto ritengono che le barche, quelle barche mostruose, possano passare transatlantici, non sarebbe un problema, visto che qua di perizie in Italia se ne fanno mille e ognuno ha le sue. Se loro firmano un simpatico documento, sì, con scritto che qualsiasi danno causato alla città di Venezia da quelle barche che passano più o meno vicino alla città, loro sono responsabili in solido, noi ci togliamo qualsiasi problema. Ma la questione, credo che a Venezia forse invece fa piacere che le navi passino, nel senso che c'è da chiedersi se Venezia ci guadagna qualcosa da queste navi. C'è qualcosa che non quadra, perché Costa, mi scusi Riccardo, Riccardo mi scusi, perché non è come ha detto lei, Costa non ha detto che le navi possono passare, Costa ha detto non vogliamo fare gli uccelli del malaugurio e dire quali sono i rischi, non ci sono rischi, eccetera, però che la situazione non vada bene, l'ha detto anche lui chiaramente, la situazione va cambiata, ha detto Costa, però poi non si capisce a chi tocca di cambiarla, e lì c'è l'ipocrisia E forse non solo, visto quello che ci diceva l'ascoltatore di prima sui 100.000 euro che vanno al comune, però questo noi non lo sappiamo. Quindi è più che altro una situazione di questo tipo, Riccardo. Voleva aggiungere qualcos'altro? Aveva un altro intervento? Sì, avevo un altro argomento. Prima c'è stato un signore che ha telefonato da Como, che ha detto che avrebbe votato per Berlusconi perché ha evaso solo 7 milioni. E soprattutto per colpa nostra, direi che abbia detto. Ecco, a questo punto, se una persona che ha evaso 7 milioni e rotti di euro, nonostante tutti quelli che ha pagato, ha evaso 7 milioni di euro, viene lasciato andare e non succede niente, è inutile a questo punto che Befera mandi tutte a verificare in tutti i bar in qualsiasi località se cioè, faccio, se ma non comunque, faccio. Tra l'altro credo che, se non ricordo male, Berlusconi non è una questione di pura evasione fiscale, ma del fatto di aver ideato un sistema atto all'evasione, che è una cosa diversa, nel senso che la pura evasione non si va in galera in Italia. Tra le altre cose erano 364 milioni di euro, che sono rimasti 7,6, perché i processi che riguardavano gli altri 300 euro. Sì, vabbè, ma la quantità di soldi è abbastanza indifferente. Come giustamente diceva all'inizio, è indifferente. Non è che uno, siccome ne ha pagate tante, allora no, l'ascoltatore diceva: se qua c'è un'evasione di 7 milioni, di che parliamo quando poi parliamo di lotta all'evasione? Se non dobbiamo perseguire come si dice, condannare questa evasione qua. Va bene, grazie Riccardo, buona serata, grazie per essere stato con noi. Adesso però è il momento di tirare un po' il fiato e di lasciarci come ogni sera con una bella storia. Sì, signori. E visto che abbiamo parlato del fatto di andare via dall'Italia perché non si riesce a fare imprese, eccetera, eccetera, vi raccontiamo invece un bel caso di tante imprese nate da un'idea, da tante idee che stanno andando alla grande. Tra poco. E diamo la buonasera a Daniela Ducato, coordinatrice della Casa Verde CO2.0. Buonasera Daniela. Buonasera a tutti voi. La ritroviamo, l'avevamo intervistata, si può fare lo spazio nel weekend che con le nostre belle storie e le nostre belle iniziative e insomma la ritroviamo volentieri, perché io avevo detto la prima volta dagli scarti della lana di pecora e lei mi ha fermato subito, no? Dalle eccedenze. Scarti è una parola negativa, però la sostanza è questa: voi siete partiti da questo e avete ideato una serie di imprese, ci sono un sacco di persone che lavorano. Che cosa fate esattamente, Daniela? È giusto, noi la nostra materia prima sono le eccedenze, comunemente chiamati scarti, che provengono dall'agricoltura principalmente, dalla pastorizia, dal boschivo. E con tutte queste materie prime vengono unite alle altre materie prime fondamentali, che sono le nostre intelligenze, le intelligenze di tante persone che fanno impresa. Siamo 75 imprese che hanno deciso di scambiarsi i saperi, le competenze, la ricerca di uno diventa la ricerca di tutti, lo strumento di uno diventa lo strumento di tutti, insomma mettiamo insieme tutti i nostri patrimoni immateriali, ma anche laddove ci sia una difficoltà, un problema, insomma ci si aiuta anche reciprocamente. Ed ecco che con questa idea di cooperare, di collaborare, di scambiare, riusciamo anche a fare innovazione. Quindi per noi questa parola innovazione fa sempre rima con relazione, relazione di qualità tra di noi. Però siete partiti appunto da questa idea dell'eccedenza, esatto, e quindi avete creato voi una nicchia di mercato che prima non c'era, cioè voi producete, diciamolo, no? Intonaci, vernici, pitture, barche. Sì, diciamo quasi 400, oltre anzi 400 tipologie di materiali, prevalentemente per l'edilizia naturale. E sono tutti ovviamente materiali certificati che non sono solo ecologici, ma che ovviamente hanno caratteristiche prestazionali eccellenti, perché che sono diciamo certificate, per cui non c'è niente di autoreferenziale. E tutto questo noi lo facciamo con appunto quelle che noi chiamiamo materie prime, che in realtà vengono definite rifiuti o materie seconde o sottolavorazioni. Questo non solo ci rende chiaramente competitivi, ma soprattutto ci aiuta a scoprire ingredienti. Prima abbiamo fatto l'esempio della lana di pecora, ma potremmo parlare ad esempio delle sottolavorazioni del latte. Ci fa degli esempi specifici, scusi, io sono lo stagista stupido, nel senso da un'eccedenza, da un materiale di scarto o in eccedenza, che cos'è che producete? Il prodotto finale, che cos'è? Per esempio sì. Prendiamo la lavorazione dell'olio d'oliva, sì. Noi abbiamo una alla fine... I noccioli sono lo scarto, è giusto? Abbiamo tutta una serie di sanse, di una serie di sottoprodotti, sì, che invece noi trasformiamo ad esempio in impermeabilizzanti, sigillanti, sì, per intonaci in terra cruda, intonaci a calce. Quindi anziché utilizzare additivi derivati dalla petrolchimica, noi utilizziamo... Quindi impermeabilizzanti, in questo caso. Ma sarebbero scarti che prima che voi nasceste venivano buttati via o che già venivano adoperati per altre cose? Ma molti di questi in realtà venivano utilizzati o come biomassa oppure come, insomma, oppure compostati. Sì, praticamente eliminati, diciamo, in maniera ecologica, ma eliminati. Esatto, ma prima di essere eliminati devono ancora fare dei passaggi. In realtà sta a come noi guardiamo le cose, come noi poggiamo lo sguardo sulle cose. Era questo inizio del non chiamare le cose, non definirle rifiuti, sì, perché psicologicamente anche le parole hanno il loro peso e colpiscono il nostro immaginario, per cui se io chiamo una cosa rifiuto, la sto già in qualche modo... Voi assolvete però, anche se non vogliamo dire la parola rifiuto, un po' a questa doppia funzione, cioè a smaltire delle eccedenze o delle cose che avrebbero un valore più basso, le riportate invece ad avere un valore più alto nella catena, diciamo, della produzione. Ma non solo, spesso si tratta anche di eccedenze che hanno poi dei costi sulla comunità e dei costi sull'ambiente. Ad esempio, le eccedenze di cui parlavamo, di lana di pecora, che non stiamo parlando della lana che poi diventa filato, ma proprio di quella parte che non può essere filata industrialmente, e prima era un rifiuto che non difficilmente smaltibile, infatti un rifiuto speciale, e quindi un rifiuto che aveva un costo ambientale ed economico notevole. Quindi e voi avete assolto anche a questa cosa. Tra l'altro, io siamo in chiusura, Daniela, volevo chiedere, ma la risposta è già implicita, come si fa a fare impresa in Italia? Si può fare impresa in Italia? Perché questo è un tema di cui ci sono piene le pagine dei giornali, però voi la vostra risposta la state già dando, si può fare, lo state facendo egregiamente, grazie per averci raccontato la vostra storia. Edilana, la Casa Verde CO 2.0. Buonasera Daniela Ducato. Grazie a voi. Grazie mille, qua, è una bellissima idea. Diamo i saluti a tutti, Barbara Bianchi, Riccardo Buccero in redazione, Valeria Bernardi in regia, noi ci sentiamo domani, Alessio Maurizi, Carlo Gabardini, 18:20 e 30. Grazie e saluto molto anche chi ci ascolta in podcast. A domani.